professor Giuseppe Villano darà, come dire, risponderà al canto che è stato tenuto nell'ora precedente, parlandoci appunto del, era come mi avevi detto, di Francesco Petrarca e dell'umanesimo padovano. Sì. Cioè quel quadro che si è iniziato viene, per così dire, continuato e concluso, passando da un preumanesimo davvero precoce al momento nascente di questo fenomeno che non diventa più padovano e visto da un orizzonte padovano, ma che si slarga attraverso il Petrarca all'Europa. Grazie. Prese. Dunque, state tranquilli, non supererò i 50 minuti. Cominciamo a 20 minuti. Alle 12 state sicuri che non andrò più là delle 12:30. Cerco di dimenticare assolutamente, e giova anche alla mia salute, che qui sono presenti il professor Elze, il professor Schmidinger, il professor Manselli, l'amico Goldbrunner, e cerco di parlare a Scheri, eccetera, e cerco di parlare soltanto ai più giovani. E dirò che l'impressione che ho è che i tempi stanno per forza, terribilmente, mutando alle nostre spalle. Cioè, se non altro, sta una grande guerra. Noi siamo diversi dai padri e i figli sono anche diversi da noi. Sta mutando metodi, discipline, ed è su questo che il mio discorso punterà in modo particolare. Esempio, io ho avuto una disgrazia, una fortuna di essere buttato presto dai vari venti fuori in scuole di altri paesi. E allora ho avuto la sensazione che l'università italiana fosse una delle peggiori scuole del mondo, ma che il liceo italiano fosse una delle scuole migliori del mondo. Parlo del liceo di allora, non dell'attuale. E però adesso ho qualche dubbio su quello che mi hanno insegnato in liceo. E il dubbio riguarda fino a un certo punto le scienze fisiche o fisico-chimiche, benché lì i progressi siano stati enormi. L'atomo, eccetera, sono concetti ormai. Ma per le scienze proprio mie, per esempio, in liceo mi hanno fatto come il pezzo fondamentale la storia della letteratura italiana. Dico a stranieri, se parlo troppo veloce, fatemi un qualsiasi segno. Poi, naturalmente, sicché nel Deutsch sprechen, und ich kann verstehen, und das Wort. In liceo, per la letteratura italiana, mi hanno insegnato. Comincia così. Prima la scuola siciliana, dopo la scuola toscana e bolognese, dopo lo stil novo. Adesso io ho i miei dubbi che sia andata così. Io so che questa struttura è stata montata dai nonni al tempo del Risorgimento, con alcune convinzioni che potevano andare per quegli anni che oggi non sono più quelle. Esempio, ogni volta io mi devo ricordare che De Sanctis, a metà della sua storia letteraria, proprio il capitolo Machiavelli, il principe sospende il discorso e dice: mi fermo, perché in questo momento le campane d'Italia suonano perché i bersaglieri italiani entrano a Roma. E quando uno scrive la storia mentre i bersaglieri italiani entrano a Roma, questa storia può subire delle deformazioni. Ieri sera la fortuna mi ha portato tra Santa Maria Maggiore e il Duomo, quando voi altri entravate guidati da Monsignor Roger a vedere quella meraviglia che io non avevo mai vista del museo diocesano, e per grazia di Dio ho potuto anch'io entrare. Io non mi stupivo che Monsignor Roger parlasse in tedesco, io non mi stupivo che Monsignor Roger potesse, come io posso, parlare in un dialetto a fondo veneto, Io mi stupisco piuttosto che Mosse Roger parli in italiano. Questo è il punto che mi fa difficoltà. Alla televisione tempo fa c'era uno sketch comico sull'indoeuropeo e tutto quello che ne segue. E quello diceva, perché in fondo alla fine si diceva l'Europa è troppo grossa, l'Italia. Che differenza c'è in fondo tra un genovese e un siciliano? Cioè, differenza. La differenza è che se si parlano non si capiscono. Questa è la differenza. E così è più, era per i padri, vero? Sarà quel mio nome con quello strano Vich sotto che mi fa capire tanto più questo. Cioè per secoli. I nostri padri hanno trovato molto più facile scrivere in latino o addirittura in greco, per l'Italia meridionale, in greco, che non in questo strano mostro che è la lingua italiana. Scusa caro, quali sono i tre grandi poeti italiani del 300? Dante, Petrarca e Boccaccio. Accidenti, tre fiorentini. Ma questa è l'Italia. Per me la letteratura italiana comincia con Ferrara, col 500. Ariosto e Tasso. Allora finalmente arriva l'Italia. Tasso, figlio di un bergamasco e di una napoletana. Teofilo Folengo avrebbe detto qualis mescidanza salate. Che mescolanza di sangue! Con quello finalmente comincia la letteratura italiana. Figlio del bergamasco, quelli col gozzo, Arlecchino, vero? E della donna di Sorrento. Qui ci intendiamo, qui c'è l'Italia. Con Dante, Petrarca e Boccaccio ci sono i fiorentini. Vi faccio un discorso che è assolutamente nuovo, assolutamente inedito. Perché il mestiere che facciamo noi è questo. Cos'è il mestiere che facciamo noi? Rispondo con un'immagine. Non il più bravo, ma uno dei più matti degli umanisti italiani fu Ciriaco d'Ancona. Niente scuola regolare, a 9 anni sulla barca di suo nonno. Il latino l'ha imparato in una forma strana che non sto qui a raccontare, il greco l'ha imparato sulla tolda della nave e sui marciapiedi di quello che allora era, immaginarsi cos'era, Atene, possibile. Una sera Ciriaco è in un cimitero greco. Viene il vecchio Pope e gli dice: tu cosa fai qui? Chi sei e che mestiere fai? E Ciriaco di sera, della mezza ombra, gli dice: io risuscito i morti. Il Pope pigliò paura, vero? Di questo che è risuscitato. Noi risuscitiamo i morti e dobbiamo avere il coraggio di farlo, vero? Ci sono due modi di fare questa storia. Uno è leggendo solo i libri e può essere un modo intelligente. L'altro è guardando i manoscritti. Un nostro amico che già chi mi ha preceduto ha nominato, che si chiama Augusto Campana, anni fa ha scritto che chi non va ai manoscritti facendo questo mestiere, il medievalista, vive di rendita. Se c'è qualcosa a cui esortarvi, ragazzi, io vi esorto alla paleografia. Ricordo la volta che è venuto un collega americano mentre io indegnamente facevo una lezione di paleografia. Quello è rimasto allibito di vedere che c'era tanta gente. Io ho dovuto spiegargli: i vostri non fanno paleografia perché non sanno il latino. La paleografia la posso insegnare così a uso corrente in 6 mesi, ma se non sanno il latino è finita. La difficoltà della nuova situazione è questa. Noi stiamo scoprendo che il veicolo della vecchia cultura fu il latino, proprio quando le nuove generazioni sanno poco o niente il latino. In certi paesi fa terribilmente differenza. Io parlo con l'amico polacco che mi dice: io appartengo all'ultima generazione che ha imparato il latino. E come d'accordo? Il suo giovane amico, che è uno storico d'arte, ha scritto castronerie grandi così perché non sa il latino. Sono i manoscritti. Come mi spiego? A subito. Quando entravo al British Museum, e per tanti anni sono vissuto a Londra e ero nel capitolo dell'Università di Londra e quindi dipendevo dalla regina, vero? O quando entravo al British Museum, l'amico mio più bravo mi diceva: ricordati che qui ci sono 150.000 manoscritti occidentali, senza contare gli orientali, che per noi erano scienze occulte. Stamattina troveremo le lettere d'amore di Dante a Beatrice. Devo dire la verità, non capiva troppo, io sono detto d'amore di Dante e Beatrice. Ma una mattina uno degli amici che era lì al tavolo dette un grido. Cosa aveva trovato? Aveva trovato 150 versi ignoti, ripeto, 150 ignoti, del libro di poesia in lingua italiana più letto dai vostri avi. Qual è questo libro? No, non ve la Divina Commedia. Non è neanche il Canzone del Petrarca. I trionfi del Petrarca sono stati più letti. Del libro ha trovato 150 versi nuovi. E da bravo inglese mi disse, sarebbe impossibile trovare 150 versi ignoti di Chaucer. E ha ragione lui. Doveva fare un lungo discorso per dire perché di un poeta italiano grandissimo, grandissimo davanti ai dio di uomini come Petrarca, si possono trovare 150 versi ignoti. A me toccò per tre mattine, e dovrò poi parlare, di fare l'urlo così, perché per tre volte mi toccò di trovare un manoscritto autografo di Petrarca. E una mattina trovai il manoscritto autografo di Lovato Lovati, da cui pigliò gioco tutti questi discorsi che stamattina stiamo facendo. Volli cavarmi la curiosità e dissi, quanto sarà costato questo manoscritto al British Museum 100 anni fa? Mi feci portare il catalogo di Sotheby è il grande antiquario di Londra. Sapete cosa aveva pagato la regina di allora, l'imperatrice Vittoria? Una sterlina. Mannaggia, una sterlina soltanto! Ecco, io sono un povero uomo, ma una sterlina per un manoscritto così la darei subito. Ma benché una sterlina di allora erano quelle d'oro belle e non quella carta brutta che adesso anche la povera regina deve maneggiare. Il discorso grosso è questo. Allora, secondo me non sta in piedi. Italiani, no. Sono portato a ripetere il vecchio discorso di Foscolo, ma qui siamo anche con noi, perché devo dire, ragazzi, mi esorto ai manoscritti. Tra l'altro perché i manoscritti dimostrano gli antichi nudi, come erano. Allora, ci sono certe cose, quando le vedo stampate nel libro modernico, ma questa gente non ha nessuna esperienza di com'era la vita allora. Quando io maneggiavo o manoscritti, o fa lo stesso. Croce, Benedetto Croce, non maneggiava manoscritti, ma maneggiava incunaboli e cinquecentine, che fa pressappoco lo stesso. Vi esorto, pensate che alla Vaticana ci sono 70. Alla Nazionale di Parigi o alla Laurenziana pressappoco 40.000. Numeri infiniti. Com'è? Io me lo dico sempre così. Nelle vecchie pinacoteche, quelle non ancora studiate dagli storici d'arte, c'erano centinaia di ritratti di ignoto dipinti da ignoto. Poi salta fuori che il ritratto di Baldassar Castiglione, autore del Cortegiano, dipinto da Raffaello. Ah! Quando io domando al British Museum, per anni io ho lavorato a questo gioco, erano permessi 10 manoscritti al giorno, lo domandavo sempre, 10, non con immenso piacere dei distributori. Di 10 ne studiavo uno, ma 9 li guardavo e ho visto tutti, ripeto, tutti i manoscritti di autori classici, dirò poi perché di autori classici, dove potevo anche i padri. I padri è più difficile, meno studiato, dovrei spiegare a lungo, dirò solo che la patrologia latina del Nini è la cloaca. Cioè, tutto è male, non abbiamo mezzi. Una mattina ebbe un colpo al cuore. Il pezzo che aveva trovato, come poi dovevo dire, è un Tito Livio, tre decadi. Prima, terza, o seconda, naturalmente, quarta. Per me era Tito Livio, postillato prima dal Petrarca, poi un secolo dopo dal Paolo. Fin lì era Tito Livio di ignoto. Lasciato scritto da ignoto, posto, anzi, l'hanno usato gli editori classici. Perché ho sorriso così? Perché ho perso gran parte della mia fiducia nei filologi classici, i quali hanno le armi spuntate. Preferisco parlare con i colleghi di storia medievale, che sono più alla pascia. Loro in gran parte pensano che tutto sia fatto, tutto è da fare. Per quanto ci sia stati Monson o Trump, ogni generazione ha il suo compito e se non lo fa, tanto peggio per lei. Gli editori inglesi dell'edizione dell'Oxford University Press avevano scritto che quel codice era stato postillato da 12 mani, come loro ne vedessero 12, io non so, Per me era solo la mano destra del Vallo e la mano destra di Petrarca. Alle 11 dovete lasciare la biblioteca perché devo andare a Oxford. Vissi per una settimana a Oxford dicendo, come diceva Geppetto il padre di Pinocchio, quella vocetta me la sono sognata io, diceva Geppetto. E così io dicevo, quel codice me lo sono sognato. Poi dopo settimana c'era ancora, non me lo sognato. Allora, il discorso che faccio è rapidissimo, ma è un discorso rivoluzionario per la storia del teatro italiano, per la storia della filologia classica e per altre storie, l'epigrafia per esempio. Ah, quando voglio confortarmi, perché il mestiere è duro, la vita è dura, vado in biblioteca. Guardo in sala di consultazione i pezzi fondamentali del mio mestiere per darmi conforto. E sono, diciamo, il corpus iscrizione latinare. C'è il genio e la forza di Mosen, aiutato da un grande italiano che era stato messo al bando dall'Italia, non poteva lavorare in Italia. Perché? Perché era un papalino. Ma ci ha detto il 1870. Quel grande italiano si chiama Giambattista De Rossi. Non ha mai insegnato in nessuna università italiana. Non è mai stato lincei. Quando lui è morto c'è la commemorazione di lincei dal romano dell'altra fede, la fede liberale, che dice rimpiangiamo tanto. E Comparetti, il grande filologo classico, di non poter avuto De Rossi, non poteva venire perché aveva giurato a Pio IX, non poteva venire a giurare ai baffi di Vittorio Emanuele II. Questa è la storia d'Italia un po' diversa da quella che mi hanno insegnato a scuola. Il corpus era una cosa mirabile, solo che gli storici classici leggono soltanto le epigrafi e non leggono le note, sono le note della meraviglia invece, per me. Poi ci sono anche i monumenti germani, ma preferirei lasciarli in disparte. Questa roba, per le ragioni che dirò, questa roba è stata preparata dalla grande Germania che abbiamo amato. Così fu intitolato un articolo di Croce, che per la mia generazione è stato un tema fondamentale, perché venne al mondo dello scoppio della guerra. E mi ricordo quante volte lessi allora, ragazzo, quell'articolo, che per me era la storia della nuova Europa e della vecchia. E adesso? Abbiamo perso la paura? No, no, anche la nostra generazione c'è i suoi monumenti grandi. I codices latini antiquiores di Lovo e i territalicum di Cristallo, che sono opere organizzate non tanto da tedeschi, ma in America, però da europei trasmigrati in America o da gente di ascendenza immediata europea. Il mondo cambia, certo che cambia. E codices latini antiquiores e iter italicum fa cambiare il mondo. Non solo, ma le materie. La materia di moto è medioevo umanesimo, proprio adesso che il latino come prodotto di consumo sta calando. E vorrei dire che torneremo aristocratici. Non mi importa un fico di questi discorsi da giornale, per democrazia, aristocrazia, eccetera. La realtà è quello che è. Se sono 10 persone studiano, studieranno 10 persone, ma studieranno sul serio. Applico questo discorso alla letteratura italiana e faccio il discorso. Si comincia al sud perché? Ma perché Palermo? Ma mica perché i siciliani erano più bravi degli altri, perché c'era la corte imperiale. Federico II è prima Enrico II. Raramente l'umanità ha visto tre geni susseguirsi da nonno, padre e figlio nella stessa famiglia. Federico I Barbarossa, Enrico VI, Federico II. La Sicilia diventa la capitale d'Europa, questo strano paese dove si parlava in greco, in arabo. La prima volta che sono sbarcato a Malta mi ha fatto una tale impressione entrare in chiesa e sentire Allah, Allah. È l'unico paese cristiano in cui si dice messa invocando Dio sotto il nome di Allah. Così allora presso poco era la Sicilia. È diventata capitale della Nuova Italia perché, ripeto, c'era Federico II. Difatti, finiti Federico II e finito Manfredi, finì la Sicilia. I nostri nonni, De Santis, dicevano viva i Vespri siciliani. Il suono d'ogni squilla, i Vespri sono. Per l'anima mia, abbasso i Vespri siciliani, perché staccavano la Sicilia dal resto del continente e la Sicilia ha rischiato di finire in acqua. Invece, al nord, i miei nonni e bisnonni, ma già se quelli col Beach potevano parlare, scrivere in italiano come Dante e Petrarca, scrivevano in latino. E nel Veneto, in particolare, mi dovevo fare un discorso grosso, risalire alla decima Reggio, Venezia e Istria sotto il periodo romano. Ma non ho il tempo, però sarebbe molto utile, perché spiegherebbe tante cose. Lo strano è che gli storici della cultura moderna non sanno la filologia classica, e viceversa. Un vecchio amico mi ha insegnato una volta quello che non dimenticherò mai, perciò dico il segreto anche a voi. Le belle scoperte non si fanno mai al centro di una disciplina, ma nei confini tra due discipline. Ha ragione. Certo che lì bisogna andare. No, no, non è Mussolini che l'ha detto per il primo, è Nietzsche, così parlò Zarathustra. Quando ho cominciato a studiare il tedesco, chissà perché, ho letto subito, Nietzsche, così parlò Zarathustra, e mi sono accorto che quando tu ci diceva vivere pericolosamente, quel poveretto ripeteva le frasi di Nietzsche. Ecco, subito dopo lessi Vittor Hugo e imparai che se avanzo seguiti, se indietreggio uccidetemi, eccetera, aveva detto la Rochefoucauld, il capo di una grossa banda vandeana, vero? La Vandea. Così mi accorsi subito che l'uomo viveva di prestiti di questo tipo. Dunque, vivere pericolosamente e andare al confine tra discipline e discipline. Al nord, nel vento, ma per forza scrive in latino. Una volta, il vecchio Novati aveva detto, c'è all'Ambrosiana un sonetto, scritto da Albertino Mussato, quello di cui si parlava prima. Cardinal Mercati disse, io cercai quel sonetto e non l'ho trovato. Io andai e lo trovai. Una di quelle mattine di sole. Lo trovai con un pacchetto di sigarette. Disse al distributore, ci intendiamo? Ci intendiamo subito. Lui cercò e il pacchetto di sigarette fu sesamo apriti e sesamo chiedi stato fuoco. E mi ricordo che impressione. Vedere questo poveretto di Veneto che si forzava di scrivere in quello che allora era l'italiano, che sforzo, che barbarie, che roba! Quando ne parlai ai miei amici filologi romanzi, non mi sapevo niente, ma è naturale, naturale, un corno naturale. Era una lingua artefatta, barbara, quello poteva scrivere in latino, un latino imparato bene o male, ma latino, ma quello che noi chiamiamo italiano. Comincia col vecchio. Io devo fare un discorso che chi mi ha preceduto non ha fatto il tempo di trovare. Lì, una mattina, come ha detto il British Museum, trovo io un po' per di una volta. 1290. Cosa vuol dire? Vuol dire era il momento in cui trionfava lo Spinello a Firenze. No, sì. Beatrice morirà, 92. Ecco. Va bene, Dante. Aveva già scritto una parte almeno delle rime della Vita Nuova e dopo il 92 metterà a posto la Vita Nuova. Nel Veneto si scriveva o in francese, quel barbaro francese che ho detto prima, o in latino. Che strano, niente strano. Durante la guerra dovete andare una volta in casa di De Gasperi. È rimasto in sorpresa. La biblioteca di De Gasperi per 4/5 era in tedesco e 1/5 era in italiano. Avevamo due politici allora in Italia, uno era De Gasperi, l'altro era Togliatti. Uno leggeva il russo e l'altro leggeva il tedesco. Oppure, come devo esprimermi? Mi esprimo con Manzoni. Manzoni comincia i Promessi Sposi e scrive una lettera a un amico francese, Fourier, professore di letteratura comparata alla Sorbonne, e dice, sto scrivendo un romanzo. Mi sarebbe facile scriverlo in milanese, dialetto. Mi sarebbe facile scriverlo in francese, ma purtroppo devo scriverlo in italiano. Fino a Manzoni perlomeno è rimasto una lingua straniera. Difatti Manzoni a sua madre poteva parlare in milanese o in francese da perfetti bilingui come erano, essendo vissuto tanto a Parigi. Ma mai avrebbe parlato a sua madre in italiano, quello che noi chiamiamo italiano. Al Veneto c'è questa retorica santa. Ho detto che rimpiango di poter fare il discorso più alto. Io dovrei spiegarvi come Padova ebbe un fatto tragico e Verona no. Padova, Verona fu occupata senza colpo ferire dai Longobardi e conservò, oggi ancora c'è la Reina a Verona, Arena bella alta. A Padova l'arena è alta così, non più di così, perché Padova restò la testa di ponte bizantina per 50 anni. Perché? Per difendere le retrovie, le comunicazioni con Ravenna, la linea Oderzo-Ravenna, Oderzo a est, Ravenna al sud. Finalmente i Longobardi ripresero fiato e con Agilulfo rasero al suolo, Padova veramente al suolo. C'è ancora chi discute se fu rasa o no, io ne sono più sicuro, ne ho 100 prove che posso dare, da letterato, non da storico, ma sono sicuro quelle di letterato come quelle di storico. A Padova nessun monumento e nessun codice. Io conosco un monumentino antico che è naturalmente sacro. Il Pietro del VI secolo, vicino lì sotto alla Basilica di Santa Giustina. Per esempio, Padova romana, fuit! Ed era ben superiore a Verona. Nel III secolo Strabone dice le città più grandi dell'impero, uno, Roma naturalmente, due, Cadice, terzo, Padova. Nel VIII secolo, VII-VIII, Padova ha perfino perduto il nome. Lei e il suo fiume. Patavium si chiama Padova, ha cambiato nome. La popolazione è scappata tutta col vescovo a Malamocco a rappresentare il principio della nuova forza, Venezia. Il fiume si chiamava Medocus, oggi si chiama Brenta. Che cosa? Insomma, se vi guarda, è finito. Quando arrivano gli umanisti padovani, insisto sul discorso fatto prima, nessuno di loro è professore di università. Anzi, devo fare un'attenzione che è indispensabile. Sono notai, non giuristi, notai, cioè non appartengono alla facoltà di legge, ma appartengono alla facoltà delle arti. È un discorso molto lungo che non ho il tempo di fare. È la facoltà di Dante, non è la facoltà di Petrarca e di Boccaccio. Dante non ha mai avuto la tessera universitaria, ovviamente, ma in ogni modo frequentava le scuole dei filosofanti e dei teologi, dice lui, teologi e filosofanti. Fa molta differenza, dovrei spiegarla lentamente, ma fa molta differenza. Lovato è vecchio, cioè, pensate, nasce circa, tutte le tanture dicono 1240, chi l'ha detto a loro? Vedono un prudentissimo circa. Circa 1240, Dante è nato nel 65, 25 anni dopo. Lovato poteva essere il padre di Dante, no? E Petrarca. Quando ho trovato quegli autografi mi è risultata chiara, con l'aiuto degli amici, mio fratello, Campana, eccetera, un'idea. Lovato allora ha scoperto Seneca tragico, dove a Pomposa, e il codice sopravvive, è un codice dell'Unde. Pomposa, non so se sapete, vuol dire il delta del Po. Allora, una stanza grossa sapete a Padova e Pomposa. Ve lo posso dire perché io l'ho fatta da ragazzo in bicicletta. Un centinaio di chilometri andare, un centinaio di tornare, adesso la si fa in auto sulla superstrada da Romea rinnovata e tutto è cambiato. Ma allora no! Era una distanza enorme. Lui capitò a Pomposa e quel codice che stupidamente i filologi classici chiamano Etruscus, io devo dire, lo dovete chiamare Pomposianus, perché lo porto via. Lo scoprì, Lovato, eccetera. Ho un discorso nuovo che non ho mai messo in stampa. Ho presso a poco, un minimo cenno. Lo faccio qua nuovo. Lovato scoprì, oltre che la tomba di Tito Livio, parentesi, e gli epigrafisti classici dicono che quella tomba fu scoperta a metà del 300. Hanno tutti torti. E è tutto un capitolo di epigrafia da rifare. Ho già detto, con le nostre, la forza oggi è passata. No, la forza attraente non è più nella filologia classica, e nella medievalistica, o negli studi rinascimentali. E noi possiamo mettere in crisi tanto la filologia classica, quanto le storie e letterature nazionali, particolarmente della letteratura italiana, perché è particolarmente, in modo particolare, nutrita di eredità classica. Lovato subito. Io sono italiana e capisco molto bene. Sì. Però penso di interpretare anche un desiderio di un parla più lento? Sì, magari preferirei rimanere qui 10 minuti più, ma... Sì. No, i 10 minuti non abbia paura, non saranno toccati. Perché, sì, vado anche più lento. Dunque, Lovato scoprì la presunta tomba di Livio, dico presunta perché non era di Livio, era di un liberto della gens Livia, ma ci trovò scritto sopra Tito Livio. Difatti, fino al 600, quella tomba fu ritenuta di Livio. C'è racconto per me eroico che quasi nessuno legge. Un erudito padovano del 600 racconta come venne un danese, oserei quasi dire un compatriota di Mansen, se non avessi paura di ferire i miei amici tedeschi. Ma si capisce che Mansen venga dalle zone di confine. Ecco, arriva un danese a Padova, il padovano lo porta e dice: è la tomba di un liberto. Ma scusate, io non so quanti tra i presenti sanno distinguere un epigrafe di liberto da un epigrafe di libero, no? Ecco, sono ragioni tecniche che Dante Alighieri mai sognò. Dante Alighieri non sapeva leggere un epigrafe, era solamente barbaro in quel, pienamente gotico. Lovato lesse l'epigrafe, non capì che era un liberto, disse: è di Livio. Scoperta la tomba di Antenore, come dove presunto, scoperta la tomba di Livio, loro cominciano a lavorare con l'epigrafia e con l'archeologia. Io non ho tempo di dire che progressi hanno fatto con l'epigrafia, con l'archeologia. Citerò solo un esempio alla fine. Dirò solo che scoperta la tomba di Livio, dopo aver creduto, dissero: adesso proviamo l'opera. Raccolsero quello che nessuno sa. L'edizione di Livio dei filologi classici è, in certo senso, essere cattivi, da buttare in acqua. Bisogna rifarla del tutto, come lo studiato. Lovato scoprì la prima, la terza, e la quarta decade ignota fino allora. Dove le trovò? Come le trovò? Quali codici? Le edizioni di Livio non rispondono in nessun modo, perché sono vecchi. Loro non riescono a vedere che dietro ai codici stanno gli uomini, molto più che dietro ai libri stampati, perché il libro stampato è un prodotto di industria. Il manoscritto è un prodotto tipicamente di artigianato. Il libro, il manoscritto, il codice non è una cosa, è l'uomo che l'ha voluto, l'uomo che l'ha scritto, l'uomo che l'ha studiato, che l'ha postulato. Sono stato costretto a una fatica impropria. Chissà perché non lo fanno i filologi classici. Fare il censimento di tutti i codici di Livio in giro per il mondo. È stata una cosa abbastanza allegra perché mi ha fatto girare dalla Spagna alle Fiamme. Ma è stata una cosa lunga. Adesso vedo un po' chiaro. Posso dire qual è la lezione usata dai padovani, da quale codice derivava, eccetera, eccetera. Ha scoperto Livio che altezza? Lovato o Mussato? Rispondo d'accordo con chi ha parlato prima. Il grande è Lovato. Già Lovato, altezza 1290, scopre Livio. Imprese che Dante non ha mai fatto in vita sua. Ogni volta che entravo alla biblioteca capitolare, il vecchio bibliotecario Monsignor Turrini mi faceva una scena patetica che mi piaceva tanto. Tirava fuori un codice di Virgilio, di Sant'Agostino. Vicino a Sant'Agostino, un codice del secolo VI delle confessioni di Sant'Agostino. E poi me lo apriva al foglio, non so se 85 o 86. Dove di fianco una mano del 300 aveva scritto Virgilius, come mise in relievo, ecco, come messa in evidenza, e mi diceva: se fosse stato Dante. Io non avevo coraggio di affliggere il povero vecchio, di dire: Dante, mai venuto in biblioteca capitolare, Dante non faceva questo mestiere, eppure ha fatto la Divina Commedia, che è una grande cosa. Il mestiere di scoprire i codici non l'ha fatto Poggio Bragiolini, come poteva credere Francesco De Santis o anche Giosuè Carducci. Nomi di due tipi molto diversi, parlo agli italiani qua, non ai tedeschi. L'ha fatto Petrarca e una generazione prima di Petrarca l'ha fatto Lovato. Dove ha scoperto? A Pomposa, alla Biblioteca Capitolare di Verona, in altre biblioteche. Allora devo dire, che mestiere faccio io? Vabbè, risuscitare i morti, ma... io faccio pressappoco, bene o male, non importa, lo stesso mestiere degli archeologi. scavo sul terreno vergine. Quando un archeologo ha fortuna, cito uno che non era archeologo, ma che fu il più bravo e il più fortunato di tutti, Schliemann, il mercante tedesco, scavò su Troia giurando che lì c'era Troia e mandò quel famoso telegramma al Kaiser che tutti sappiamo. Scavò e trovò 9 città di Troia, uno sull'altro. Così quando io scavo per Lovato, io mi domando, è il 9° secolo, è l'8° e il 7°. Una volta fui a un seminario che mi insegnò tante cose. All'Istituto Storico per il Medioevo, il Piatto dell'Orologio. Una me la insegnò dal punto di vista relativo, un illustre, molto illustre, Pasquali, che era perfettamente bilingue, Giorgio Pasquali, tedesco italiano, traduceva dal tedesco in italiano e in quei casi diceva il venerato collega. Ecco, il venerato collega disse una cosa che per me non ha senso, e disse tutto stoppato, quello del Medioevo, c'è più niente da fare, tutto stoppato. Voglio sapere il codice, chi l'ha maneggiato, chi l'ha toccato, non solo se il testo è stato tradotto in un'edizione critica, è tutto da fare in certo senso, e l'impresa comincia ogni giorno per grazia di Dio o per castigo a seconda dei punti di vista. La scoperta dei codici classici incomincia qua, più che tutto. Per gli umanisti italiani, questi laici, la gran figura italiana è immortale. In questi giorni ho una grossa afflizione, so che è appena morto sul campo di battaglia del suo ufficio, al Barbour, Otto Kurz, lasciando la moglie in quelle tragiche condizioni, malato di cancro al cervello, eccetera. Otto Kurz una volta l'ho portato a vedere le tombe dei padovani di questi umanisti, che sono in parte tombe su mausoleo classico. E ricordo che mi ha detto, solo in Italia, Padova e Bologna, la tomba per il laico, in questo stile imponente in questa data. Difatti, al di là delle Alpi, tomba per il cavaliere o tomba per il prelato. Anche per questo, per me, a Trento io sento così l'odore di crauti tedeschi. Io vengo in questo momento dalla Toscana, un altro mondo. A Bologna le tombe dei dittatori, a Padova le tombe dei notari. Sono stato a un congresso su le origini dell'università. A Lovagno una seduta intera per discutere la prima tomba 1470. Sono date che non hanno senso per gli italiani di persone, non hanno senso. Ecco. Le tombe dei dettatori sono là, dei glossatori, scusa, sono là a Bologna, attorno a San Francesco, San Domenico a parlare. Vado indietro, vado al secolo IX e al VI. Dico IX e VI e chi intende bene, capisce perché dico due secoli così tipici. Ecco. Qui è tutto da fare. Dove lo vado a scoperto? Come è scoperto? E quelle biblioteche pompose, come si erano formate? Quell'altra volta al British Museum trovai il codice del Petrarca di Livio. Adesso viene il discorso grosso. Al liceo mi sento Dante, Petrarca, Boccaccio. Non mi hanno detto che tra Dante e Petrarca c'è l'Oceano Pacifico. Ci sono 40 anni di differenza, ma leggete il canzoniere, è tutto diverso. Il mio grande amico, che parla un po' in difficile, quindi per i giovani qualche volta, ma che parla tanto sicuro, è Gianfranco Contini, con cui prima che venisse Schmidinger ci siamo trovati insieme allo Stato di Friburgo. Contini ha scritto una prefazione luminosa per dire Dante scrive in una maniera e Petrarca scrive in un'altra. Come mi spiego? Subito! Dante fa dire su a San Pietro nel paradiso parole di questo tipo e lascia pur grattare dov'è la roia. Petrarca di Laura non dice neanche gamba. Addirittura non dice neanche occhi. Dice i lumi bei che mira al soglio. Quelli di Laura sono i lumina classici. La lingua è tutta diversa. Ma è stessa. Per grazia di Dio, gli inglesi dicono a blessing in disguise, una benedizione per traverso. Per grazia di Dio, il padre di Petrarca fu esso e tutti finirono là. Mi ricordo 39. Ero insieme con Giorgio Pasquali e Giorgio Pasquali mi mostrò una cartolina. Era il solito esule tedesco che mandava la cartolina da Calais al momento di imbarcarsi, 39, e c'era scritto Omnes eodem cogimur, le mistiche o d'Attiliano, siano tutti spinti in America. Allora, erano tutti spinti a Avignone. Nelle storie letteratura italiana non mi hanno mica insegnato che Avignone è diventata la capitale d'Europa, perché questo è un discorso guelfo. E quelle storie sono montate in chiave ghibellina. Io me ne frego del guelfo e del ghibellino. Quello che mi importa è la realtà. In quel momento la realtà fu guelfa. Tanto più dopo la fine di Federico II o di Eterino, i figli del demonio di Hitler, di quella generazione. La realtà è guelfa ed era la corte papale, con un fondo ghibellino. Perché il guelfismo visse tanto che il comune padovano mise questa legge: chi ammazzava un prete pagava come ammenda soltanto un denaro. E difatti parecchi preti furono ammazzati. Il cardinale Niccolò da Prato, Giovanni Villani dice, sapeva di ghibellino. Poteva dire lo stesso di Napoleone Orsini, forse. Ecco, e si capisce, a ogni azione succede una reazione uguale e contraria. Non ho parlato di democrazia cristiana, no. Dunque, Petrarca anche lui scopre Livio. Quella mattina trova il Livio dal ragazzo Petrarca. Scavando piano piano venne a sapere. Petrarca aveva costruito il suo Livio facendosi portare un Livio antichissimo da dove? Una regola, ve la dico. Dove ci sono grandi monumenti, ci sono stati anche grandi codici. La Chartre. Io credevo che Chartres fosse il monumento più bello della cristianità. Poi dovete pensare, no, c'è anche Santa Apollinare in classe. E allora cominciai a pensare quali sono i due più brutti. E finì col convincimi che sono San Lorenzo delle Scoriali e Monte Cassino. Non sto a spiegare perché. E sarà fatto portare da Chartres un vecchio codice poi perduto. Scopersi allora, 1948, che la biblioteca di Chartres è stata bruciata da una sola bomba di guerra. E cominciai a poterla ricostruire con i pezzi del Petrarca e dei suoi amici che avevano lavorato, non sto a raccontare come a Chartres. Petrarca aveva 22-23 anni. Si è spiegato? Autodidatta! Ecco. Mi fa più impressione che non pensare che Leopardi ha scritto all'Italia a 18 anni. A 22-23 anni lui era già il capitano della nuova Europa. Poi, qualche anno dopo, scopersi che l'altro Livio gli era venuto da Verona. Un Livio che gli editori dicono Livio tedesco del secolo XI. È un Livio del X scritto a Verona. Ecco, non fidatevi mai se non avete toccato con le vostre mani. Folengo dice di nuovo manibus meis per toccarvi, ecco, lo splendido maccherone. Adesso so la terza cosa, ed è questa, la esprimo subito con una domanda. Petrarca è l'erede dei Toscani, Toscano era lui, suo padre Toscano, sua madre, e anche in parte l'erede dei Provenzali, perché a scuola non mi hanno mai insegnato che il ragazzo Petrarca ha giocato alle palline con i ragazzi provenzali e poteva dire mannaggia in provenzale, ecco. Ma questo cambia tutto, certo che cambia tutto. Ah, oh, ma io so, ci sono dei bei discorsi che sono Petrarca e provenzali che dicono, Petrarca dice la donna è bella, si fa l'amore di primavera, attualmente si fa l'amore d'inverno si fa letto con la bulla. Si fa, tutti quei là si innamorano di, vero, venerdì santo, sabato santo, perché è in primavera, e mi piace tanto quando scrivo Laura, Beatrice, quelle palle, vero, prese sul serio, è la retorica naturalmente. E erede dei provenzali, e i provenzali dicono, sì, l'amore è bello, bello, solo a un ragazzo di quelli che lavorano con me è successo adesso di trovare finalmente il pezzo. Noi abbiamo riconosciuto 80, dovrei spiegare come, codici appartenuti alla biblioteca del Petrarca. Un solo codice in volgare italiano. Nessun codice in provenzale, nessun codice in francese. Il ragazzo di fianco a me è venuto una certa mattina a dirmi scusi. Sì, va bene, dai. E abbiamo lavorato insieme e adesso sta uscendo il pezzo. Un amico finora sconosciuto del Petrarca, ma a quale il Petrarca ha dedicato un gruppo di lettere in prosa e di lettere in verso, ha posseduto uno dei più bei canzonieri provenzali che ci siano. Ormai posso sciogliere il segreto, perché fra 15 giorni esce il volume, il canzoniere Enne della Morgan Library di New York. Ah, finalmente cominciamo a ragionare. E la corrispondenza, per piacere, la corrispondenza è questa. Tutti quei poeti, meno uno, compaiono nella lista dei poeti provenzali dei trionfi, dove c'è tutta la lista dei poeti del passeggio dei poeti amorosi. Finalmente cominciamo a poter ragionare. Voi ragazzi ragionerete ancora meglio perché andrete più avanti. Faccio una domanda che non ha neanche senso oggi. Tanto nessuno se la posta. Petrarca fu subito l'erede della tradizione toscana della poesia. Fu l'erede della tradizione provenzale, più lontana ormai, guardate, sono passate due generazioni, tre, e quindi tant'acqua è passata sotto le Pont d'Avignon, ogni dance, vero? Pertanto per restare nell'ambiente. E Petrarca fu subito anche l'erede dei Veneti o dei Padovani, è una domanda senza senso, accettando la biografia che l'enciclopedia Treccani dà di Petrarca, perché quell'enciclopedia dice che Petrarca arrivò a Padova per la prima volta nel 1349, tardi, 45 anni e più, 45 anni, si capita che era Spagna per la fisica atomica. Perché quando quelli scrivono gli articoli, la fisica atomica non era ancora mai. Ma sbaglia anche qua, perché se la cambiate tutto, posso dire. Toccò a me di fare durante la guerra, che ero, dormivo, ricordo la sera che l'amico portò il giornale dicendo, vedi che ho scritto il giornale, le servizi a cui gli inglesi obbligano i nostri prigionieri a dormire. Ed è stato dei cavalli, non dormivano, stavano i cavalli prima di essere spediti, poveretti, sul fronte russo. E l'amico disse, perlomeno quelle sono spalle di cavalli inglesi, se l'avete portato di pallone normale. Mi alzavo alle 5 e scrivevo la prefazione della mia edizione. Alle 8 andavo in reggimento e restavo indebettito tutto il giorno, ma per la vita militare non occorre essere intelligenti, anzi, è bene non essere. Dunque, quando feci quell'edizione, in quelle condizioni, mi accorsi. I Rerum Memorandarum sono scritti 1343-1345, parecchi anni prima che Petrarca venisse a Padova. Lui sa tutto. Lui ha già letto tutte le opere di Monsanto, grosse storie. Ha letto perfino i Carmi, che noi abbiamo solo recuperato adesso, di Lovato. E lui scrive, Lovato sarebbe stato ben grande se non avesse atteso un po' troppo le leggi e troppo poco la poesia. Mussato fu rerum historicarum anxius conquisitor. Sa tutto. Ecco, adesso so. C'è un cordone umbilicale tra Avignone e Verona, tra Avignone e Padova. Perché? Chiaro. Il centro d'Europa era Avignone, la capitale. La sede popolare, naturalmente, c'è poco da fare a stare intorno a Ghibellino. Guelfo Ghibellino non esiste, non esiste una realtà, vero? In quel momento Avignone era la capitale d'Europa. Di là c'erano i mercanti italiani che avevano le unghie grosse così, e che lasciavano fiorini in giro per il mondo. Quando arrivo a Londra e vedo Lombard Street, quando arrivo in Fiandra e vedo Lombard Strat, devo pensare alle novelle di Boccaccio, no? Quella prima lì, prima giornata, Ser Ciappelletto, così dice, questi lombardi cani! Papà. Benedetto Croce, che era napoletano, disse, mai si trova una strada dei napoletani o dei pugliesi. E segno che chi manovrava era centro Italia e nord Italia, dopo il vespro, dopo il disastro angioino, tanto più dopo Giovanna I, Giovanna II, Dio vuole castigare quei popoli e mandò due regine di quel tipo. Di fianco i mercanti non me l'hanno insegnato a scuola, c'erano i loro cugini che erano i canonici, che avevano le dita lunghe altrettanto, e la prima grande mafia italiana, la mafia di lusso, conquistavano canonicati a Turin, a Chartres, a Liegi, in Fiandra, e ne conquistarono anche in Italia. Verona è uno dei più grossi canonicati. e la data di assalto a Verona è 1326, dovrei spiegare perché. E già comincia prima, 16, cosa vuol dire 16? Vuol dire l'inizio di Papa Giovanni XXII, credo di date esatte. Tra il 16 e il 26 viene assalto, con il 26 Verona è inondata. Scavano a Verona, Petrarca ottiene un livio da Verona. Petrarca ottiene, ecco il discorso che non è mai stato fatto, che rivelo così la prima volta senza avere tempo di darle prove alla lavagna e che spero di rendere per iscritto nei prossimi mesi. Petrarca ottiene il livio di Padova e costruisce il suo livio, guarda che ne viene distrutto purtroppo, piango di rabbia e di dolore. E viene distrutta tutta l'edizione di Livio, compresa la quarta decade. Dico la quarta decade perché l'amico caro che l'ha costruita un po' di anni fa, con un lavoro improbo, ma lui non poteva arrivare a queste cose. Io sono sempre più convinto che, sì, devo andare più chiaro, che le edizioni di domani saranno fatte in società, tra noi e i classicisti. Se vogliono lavorare soli, lo faranno a loro danno. E noi metteremo in crisi le storie e le letterature nazionali, più che tutto della letteratura italiana. Una volta, in una città francese, il giovane amico mi diceva, qui si danno tesi di questo tipo, Sabat o qualche altro degli autori moderni, vita, opere, dice la ragazza fa prima uno schema della vita, poi il riassunto dell'opera, poi dice il terribile viene che il terzo capitolo è conclusione, concluda che cosa? C'era niente di già da concludere, qui invece c'è tutto da cambiare. Petrarca, già all'altezza 326, riceve la realtà dei padovani e riceve i testi. Chi è che le riporta? È questo che dobbiamo raccontare. Nomi che non compaiono finora nella storia teatrale. E con questo Petrarca acquista questa forza enorme di doppio erede dello Stinnovo e di Dante e di doppio erede dei padovani e della filologia in latino. Cosa vuol dire scoprire un testo? Vuol dire fare un mestiere che Dante non ha mai fatto, con tutto il rispetto per Dante. Come Dante non si è mai fatto una tomba, tanto perché non aveva soldi, povero diavolo, vero? Come fa Lovato, VF, vivus fecit. Meraviglie che solo Lovato può fare. SS, simi et sui. Dante neanche sapeva cosa erano quelle formule lì, vero? Il giovane Petrarca, il ragazzo, figlio per grazia di Dio, di padre ricco, perché il padre prima era esule, ma poi diventò consulente di grandi mercanti e il difensore dei bardi contro il re d'Inghilterra. Chissà che segni di parlare di bardi, beh. È la differenza che c'è tra me e il mio collega di diritto penale, a Schieri, che appartiene a un po' a quella razza, può capire subito che cosa vuol dire di differenza. Apre il giornale. E il mio collega fa, ecco, io ho gli studi, lui c'ha lo studio invece. Finisco, scusate se in sostanza ho appena cominciato. I padovani inventano l'archeologia, l'epigrafia, non ho potuto dare esempi. Vi dico il massimo, Petrarca in tutta la sua gloria non arriva a essere un epigrafista all'altezza dei padovani. È un discorso a complemento del corpo. I padovani inventano e Petrarca continua l'opera di scoprire. Scoprire cosa vuol dire? Arrivare in una biblioteca, dire questo è nuovo, guarda che questo è nuovo, io sfiderei tanti dei miei colleghi di filologia classica a dire nuovo o vecchio, senza ricorrere alla storia, senza ricorrere al Tesaurus. Poggio dice a un corrispondente, no, questa parola non si può usare perché Cicerone non l'ha mai usata. Io non ricerco se Cicerone abbia o non abbia usato quella parola, a me fa specie che Poggio a freddo, senza lo calovario, non avevo, poveri Cristi, potesse scrivere, gli opere ce la sono così, e mica Catullo, che è vicinino, il Libellus, sono così. Petrarca impara questo mestiere, Petrarca è più bravo ancora di Lovato, sì, in filologia è più bravo, tra l'altro perché è più giovane. Più giovane di due generazioni, Petrarca è nato nel 304, Lovato è nato nel 240, 64 anni di differenza, due generazioni, una cosa enorme. Ora conto tutto da fare. Questo vuol dire rifare la storia del territorio italiano, rimettere in crisi, proprio sedere in acqua, i filologi classici, epigrafisti e archeologi per una certa parte, chiedo scusa al parlare chiaro, e vuol dire mettere finalmente a posto la storia dell'umanesimo e del medioevo. un lavoro grosso, ma sì, noi possiamo portare delle briciole, i figli faranno. Perlomeno 3 generazioni hanno campo quanto vogliono da divertirsi. Qua. Ho già detto, noi stiamo montando il mestiere. E lo stiamo montando in un momento tragico, il momento appunto in cui il latino cade. Dite chiaro che non si può fare questo mestiere senza latino. Io sono stato per un certo momento visiting professor alla Columbia, a New York, e pensavo con terrore che dei miei colleghi di italiano 4 non sapevano il latino. Come si possa fare la storia della letteratura italiana senza latino? È inconcepibile. Io mi ricordo che quando ero ragazzo, a 21 anni, dovevo guadagnare e facevo scuola in una scuola serrana per geometri e per ragionieri. E mi ricordo sempre lo strazio di leggere Dante dicendo, un momento, Giunone e la moglie di Giove. Marte è il dio della guerra, Marte è ragazzi! E quelli erano uditori attentissimi, ma poveretti, del tutto sprovvisti. Il latino, la paleografia, lo scavo diretto sui codici e noi trasformeremo quei codici di ignoti, scritti da ignoti, l'autografo di Erasmo, di Poliziano, di Petrarca e alla fine, perfino di Dante. Finisco con un aneddoto e è finito da tutto. 1964, capitano Sera Ravenna doveva parlare su Dante, parlare. Poi andammo a cena e di solito le cene in quell'ambiente di buona cucina sono allegrissime. Quella sera era una cena tristissima. Io dicevo, qui a qualcuno è morta la mamma o la moglie. E non riuscivo a capire quale fosse quello a cui era morta la mamma o la moglie. Finalmente il vecchio monsignore mi spiegò con le lacrime e con le gambe. Perché sono disgrazia la bella, grossissima. Cos'è la disgrazia? E dice, sa, lei ricorda bene che per il centenario precedente, 1865, scavando, si trovò nel convento di San Francesco, lì a Ravenna, la tomba di Dante. Certo, sepolta, sì, per portare via Dante ai fiorentini, certo. E dice, e noi vogliamo per il centenario del 1965 trovare la Divina Commedia autografa di Dante, sepolta in una cassetta di ferro, qua nel chiosco di San Francesco Ravenna. Sì, chi vi ha detto? Ah, dice, no, deve essere il signore del corpo, c'è. Cioè, perché oggi? E dice, perché proprio oggi abbiamo fatto intervenire l'esercito italiano con radar e non hanno trovato niente. E in mezzo a quegli spaghetti che erano dolcissimi, io dissi, ma io sono convinto che le torri di Dante sopravvivono e si possono trovare. Il tono si rialzò su. Ah, l'abbiamo trovato. E mi dice, cosa? Come? Guardate, Dante stesso racconta che quando morì Beatrice, lui lesse per consolarsi il De amicizia di Cicerone e poi il De consolazione. Io sono sicuro che cercando con calma, o prima o dopo, troveremo uno o altro di questi libri. Ripiombò la tristezza. Dice, per 4 postiglie che Dante ha messo, no, voglio tutto l'autografo di Divina Commedia. Ora, scusate, se non cerchiamo, ne troveremo, se non di autografo di Divina Commedia. Ma guardate però che è stato fare l'autografo del Decamerone, per esempio, tanto per intenderci, ecco. È stato fuori l'autografo del Teseide, del Boccaccio, tanto per intendersi. Continua a saltare fuori. Adesso, fra 15 giorni, pubblichiamo una lettera ignota, fondamentale. L'ha trovato un amico inglese a Oxford, dove tutto è catalogato, dal Petrarca. Al cancelliere di Venezia. Sottili mi scrive un mese fa, dice, io ne ho trovato un altro, quelli sottili è ancora più bello. Ne avremo ancora a averlo da trovare. Interessante e spingersi a trovare. Per me uno dei punti capitali è l'alleanza Avignone, Padova a questa altezza. Cioè il ragazzo Petrarca che riceve l'eredità, le armi di Achille sulla tomba di Aiace, che riceve l'eredità dei padovani. Cosa vuol dire rifare per i ragazzini del liceo tutto lo schema antico della tartuna. Vuol dire, ripeto, rimettere al lavoro i filologi classici vuol dire dare forza ai medievalisti. E vuol dire, credo, anche intenderci, quindi fare il punto primo capitale tra noi che facciamo la filologia, bishop per parlare in termini tedeschi, e voi che fate la storia. Perché questi grandi scavi vanno per forza fatti insieme. Chiedo scusa, spero di non aver passato, ero appena passato quel termine, chiedo scusa se ho portato pochi esempi, ma capite che di più non potete. Se posso, o immediatamente, o nelle conversazioni successive, spiegare un po' di più, più che tutto quello che mi interessa è spiegare il mestiere ai ragazzi. Noi non abbiamo bisogno di 500 persone alle nostre lezioni, che è ripugnante, ma abbiamo bisogno di dare a qualcuno, ai soldati di Gedeone, però il senso che queste materie sono ancora vive e operanti. Mi fa tanta rabbia pensare che tanti dei ragazzi credono che la storia sia cominciata nel 1968. E per questo ogni anno dico, no, no, se Carlo Martello avesse perduto la battaglia di Poitiers, io sarei musulmano e poligamo, il che in casa mia farebbe una certa differenza. 6 mogli e 68 figli. Grazie. Che usi e costumi avete voi? Dire grazie all'amico Milanovic è, direi, superfluo, perché il grazie è nato spontaneamente non solo dal vostro applauso, ma soprattutto dall'interesse con il quale un po' tutti, è vero, avete seguito le sue parole, le sue osservazioni e le sue, solo in apparenza, disinvolte indicazioni di studio e di lavoro. Il rapporto tra Padova e il mondo, tra il mondo padovano e Petrarca, non è venuto fuori in astratto, ma ancora una volta in concreto e in un contesto di cultura e, aggiungo, di vita. Ora, dopo una mattinata così ricca, ci rimane pochissimo tempo per la discussione che vorrei, cioè che dobbiamo ricondurre all'essenziale, anche per quello che riguarda il professor Guido Milanovic. Quindi, se qualcuno di voi, professor Milanovic, non so se numero uno o numero due, perché non so chi di voi due è più giovane, se vuol venire qui un momento, perché venga, venga, perché se avete da porre qualche questione, pregando di dover ridurre all'essenziale, perché le cose che ci sono state offerte questa mattina sono ricchissime, vuol dire che poi, poiché noi, come voi sapete, riprendiamo alle 3, avremo possibilità anche nel pranzo e dopo il pranzo di fare qualche chiacchierata, se l'amico e gli amici e colleghi saranno troppo stanchi o troppo sacrificati da una mattina che è davvero stata impegnativa. Quindi, per favore, chi ha da porre qualche questione? Scusi, il nome, per piacere. Giovanni Mariscalco da Siena. Va bene. Scusi, no, anche per capire se è tedesco o italiano chi parla. No, no, dalla lingua poi si capisce, ma dai, dai. Io non ho una domanda adesso, vorrei proporre una cosa. Potremmo forse chiudere in mezzo, siccome il materiale è stato così tanto, che sarebbe peccato perdere una discussione interessante. E siccome in pomeriggio parlerà il professor Schmidinger, e avremo quindi solamente... Ma è bravo Schmidinger, eh? Oh. Sì, ma solo uno, non due. E quindi il tempo impegnato dalla relazione sarà più breve. Potremmo forse rinviare a pomeriggio tutte e tre le discussioni sulle relazioni. Io devo domandare, un momento, la proposta mi pare che sia molto ragionevole, anche in relazione al fatto che siamo attesi al ristorante. Il problema è solo questo: gli amici Milano sì, finché qualche cosa incontrare, perché allora potremmo fare una cosa: dovremmo cominciare puntualmente alle 3, e allora dalle 3 alle 4 avremo un'oretta di discussione, sì. E poi alle 4 il professor Schmidinger avrà il tempo di fare la sua relazione, e poi avremo anche il tempo per discuterla, perché anche quei problemi non sono di poco rilievo e di poca importanza. Allora, sentite, facciamo una cosa, vuol dire che non discutiamo immediatamente, corriamo subito al ristorante e lì ristoreremo il corpo per poi ristorare anche l'anima. Dunque, senti. Grazie moltissimo. Grazie. No, no, è tutto da fare, ma non c'è una cosa per questo trovare, il manoscritto di tante. C'è un prete austriaco, giorni. Oh, eccolo Marco, io ho visto questo Marco. Sono arrivato al giorno, l'ho portato di presso. E mi ha detto. Ma questo ti composa? No, non ci credo. Sì, sì, quello di composa è una fortuna. C'ho il ritratto di Dipreccio, il ritratto di Dipreccio è un lì ha scritto lettere. Ma una cosa di ci prova per questa cosa lì. Sì, sì, non. No, no, no, io ho parlato per loro, non per voi, appunto. Guarda, e con la necessità di essere così apolittico, perché andiamo. Io lascio qua, non si lascia. Io sto ospitando, per questi quando riprendere dopo un brevissimo intervallo dal e di dedicare la prima ora di questo pomeriggio appunto alla discussione delle due relazioni dei professori Giuseppe e Guido Pillanovic, due relazioni delle quali abbiamo tutti stamattina apprezzato l'importanza, il rilievo ed il significato proprio nell'ambito del nostro seminario. Quindi, senza perdere altro tempo, vi prego di porre... Per fortuna c'è un rompighiaccio. Di porre il problema. Come nei giorni passati, non ho bisogno di dire, anche oggi, abbiate il coraggio dell'esporvi. Nelle cose di cui abbiamo sentito stamattina, gli esperti sono loro due e noi tutti, a cominciare da me che vi parlo, siamo dei purissimi ignoranti. Quindi dobbiamo chiedere reciprocamente, sin da ora, scusa di quello che noi potremmo dire di ingenuo, di sbagliato o di semplicemente non esatto. Quindi una discussione di seminario ha senso proprio in quanto si ha il coraggio dell'esporsi. Quindi, prego. Io ho una domanda da porre al professor Guido Pilani, però è una domanda che potrebbe essere un'occasione per una verifica di cosa avete detto prima, nei giorni precedenti. Io vi ho parlato di storiografia umanistica, di storiografia medievale. Il professor Manzelli aveva sì, identificato come un elemento caratterizzante della storiografia rinascimentale, ma umanistica, la nascita di un senso storico, critico, nuovo. Ora il professor Guido Pilani ci ha parlato, se non sbaglio, di Rolandino, il quale sarebbe autore di storie. Una cella, una cronaca, insomma. Sì, io vorrei sapere se in queste opere storiche di questo preumanissimo Palamara, se ce ne sono le altre che il professor Pilani ci può indicare, se possiamo rinvenire dei segni di questo nuovo spirito, il professor Manzelli diceva c'era. Dunque, per me, io non sono il professor Arnaldi, specialista, diciamo, di Rolandino. Lo conosco benissimo. No, non sono il professor Arnaldi e in ogni modo lo vedo sotto un altro punto di vista. Ovviamente sono Arnaldi storico, vero e conoscitore finissimo di Rolandino. Ecco. Quello che per esempio, dopo torneremo a lei, che stamattina non è stato detto, perché non si finisce ovviamente mai, è che una premessa precisa ormai, considerata da tutti, un anticipo, ecco, scusate, alla laurea del Mussato, è, chiamiamola la laurea, ma insomma è presa poco così, del buon compagno d'Asinia, è maestro di Rolandino a Bologna, che poi venne anche a Padova, e la consacrazione anche dell'opus di Rolandino a Padova, se non erro 69, va bene, che alla presenza di tutti i maestri dell'università, e lui lo dice espressamente alla fine della sua cronica, scusi, vuol dire più forte, no, no, se interessa dico come si chiama, no, come si chiama questo, non so, no, non ho capito forse male, no, no, perché le avrei spiegato, no, alla fine della sua cronica Rolandino nomina che l'opus fu commendatum all'università alla presenza sua, perché era professore, e di tutto un seguito di professori, da Zambolino del Garzo e tanti altri, cioè di diritto, di scienze, di scienze naturali, di tutto, ecco. Ora, questa, prendiamo anche il solo Rolandino, che ha studiato a Bologna da buon compagno da Signa. Cronista anche lui. Cronista anche lui. Non era stato sottolineato, direi, sufficientemente. Qui non c'è, per esempio, il professor Luca, ricordo, se ben ricordo, che nel suo studio, appunto, sulla polemica, mi dispiace non ci fosse, per con Fra Giovannino, lui proprio dà accenna alla laurea di Mussato come un fatto assolutamente nuovo, una ripresa dopo secoli e secoli, diciamo, della laurea di Stazio o altre cose classiche. Sì, è vero, il paludamento della cerimonia di Mussato è squisitamente classico. È stato detto, da mio fratello e da altri, insomma, è un discorso che abbiamo fatto in famiglia tante volte, che questa laurea di, diciamo, Rolandino, di questa consacrazione precisa, non laurea, questo opus, questa approvazione, scusate, autenticazione, per un termine esatto, dell'opus di Rolandino, prelude ufficialmente di fronte a tutta l'università, prelude a questa consacrazione di Mussato. Io potrei dire anche qui di più, che la consacrazione di Mussato non è certo un modo per la laurea di Mussato, di Petrarca, insomma. Ci sono certe cose, in questo momento è inutile a dire, ma che insomma fan sì che testimoniano che ben precisamente il Petrarca venuto a Padova sapeva e aveva sentito dire tutto questo. Ora torniamo all'altro discorso, cioè, a mio modesto parere, ripeto, qui non c'è il professor Andano, nella cronaca di Ezzelino io direi siamo, ho sentito da altra persona per altri problemi il discorso medioevo o non medioevo, cioè o avviamento a spiriti nuovi, io direi che in Rolandino, io non ho anche scusa di questo, ripeto, io vedo, come ho detto stamattina, qualcosa di ben medievale. Non ho parlato dell'epitafio di Rolandino, di uno studio che sto facendo, parto viceversa non tanto dall'antenoride dell'iscrizione di cui parlavo stamattina, quanto dall'epitafio di Rolandino, per dire, tanto Rolandino è calato nel Medioevo, faccio proprio un confronto, tanto l'epitafio di Lovato, di cui non abbiamo parlato stamattina, è assolutamente già con spiriti filosofici e cose di modernità assoluta, per quei tempi. Come è altrettanto vero che se in Francia, in quella stessa data, si riusciva, per una testimonianza che abbiamo, a malapena a leggere una iscrizione, i nostri erano già, sono discorsi già fatti dal professor Campana, senza questa testimonianza, diciamo, concreta francese, erano già così avviati che sapevano leggere una lapide e semmai costruire una loro lapide, un epitafio per loro, un epitafio per sé. Magari appunto rovesciando, e io non l'ho detto, c'è un esempio perfetto che è inutile che dica, rovesciando un significato classico, un verso classico, a loro uso e consumo spirituale, religioso. Posso dire ancora di più, da testimonianze assolutamente inedite, c'è una critica perfetta nei nostri preumanisti del concetto di Seneca tragico. Cioè, Seneca è cristiano, secondo San Girolamo, pseudo Girolamo, scusi la corrispondenza apocrifa, Seneca San Paolo, no? Seneca, Medioevo dice cristiano. Momigliano studia tutto questo problema e dice: ma da quando? Chi ha detto questo? Da quando è cominciata la tradizione? C'è un discorso critico che fanno. Cioè, di fronte alle testimonianze, come noi faremo, un discorso anche qui matematico, una percentuale dice che è cristiano, un'altra percentuale dice che non è cristiano, che forse tra coloro che sono sospetti lo dimostra quest'altro. A questo punto noi abbiamo una nota che dice esattamente così. Allora, io dico, Rolandino rimane ancora medioevo, muore un momento, tra l'altro gli appunti così. Dunque, Rolandino muore quando Lovato è ormai, diciamo, ben avanti negli anni. Un rapporto Rolandino-Lovato per documenti non esiste. Che io possa trovare una frase di Rolandino che ricorre in Lovato è un altro discorso, perché il cronista Massimo di Ezzelino. Ma torno a dire, io posso leggere mille volte Rolandino e non posso trovare le espressioni classiche, ma tantomeno di Livio, cose proprio il rifare una frase, il giro di una frase. Però c'è un pericolo. Scusi se continuo il discorso, cioè è questo. Che è più facile per questi signori imitare con lo studio della metrica e costruire dei versi che scimmiotano, per dire un termine molto povero, i versi antichi, che non la prosa. Questo è un fatto scontato. Dicevo per Sor Manzelli, chi legge Mussacco rimane, per conto mio, se lo legge dal lato letterario, assolutamente deluso. Mussato cronaca. Mussato cronaca. In parte però, cioè in parte e molto in parte, anche il Mussato delle poesie non ha nulla a che fare con l'altezza stilistica. Già Sabadini lo diceva, Sabadini viste queste epistole per la prima volta, cioè quelle Foligno, quelle poi considerate autografe da mio fratello, Sabadini disse: è un buon facitore, non diversi, metrica, conosce. E allora noi abbiamo la testimonianza per la metrica classica, tutti i discorsi che non ho fatto per la metrica di Seneca, che non ho fatto stamattina. Il discorso concreto per giungere alla conclusione è questo: se Mussato viceversa nelle sue storie, lì io noto veramente un respiro. Mussato nelle storie e Mussato in quello che è stato definito un'opera quasi illeggibile, il dialogo di cui non ho parlato, il Delite, non guardiamo il Contracasus che è proprio un rifacimento completo di Seneca, del pseudo Seneca, e che porterà De Remedis del Petrarca, così dritto, il Mussato del Delite, che è un'altra questione, lui immagina di sognare, scusate se mi dilungo, mentre gli stanco in esilio, alla fine proprio della vita, gli ultimi giorni della vita gli appaiono come a Boezio le meretricule e la poesia, così a lui, e parte proprio dal De Consolazione, che era il testo anche per consolarsi dell'esilio, era ovvio così. Bene, lui descrive una lite tra la fortuna e la natura. Guardate che è un discorso molto importante, c'è quel libro di appunto del professor Eichmann, Fortuna und Virtus, in certo senso sono questi temi che sono un po' pericolosi perché possono cadere nel generico, vero? Ma lì lui, partendo da questo, fa una questione dove la fortuna dice le sue ragioni, la natura dice le sue ragioni. Alla fine viene chiamato il Cristo e l'Apocalisse e tutto a dirimere chi ha ragione dei due. Bene, lì ci sono sicuramente, uno che abbia letto le storie e uno che affronti questo trova tutte le meditazioni di Mussato, e io dico subito della scuola padovana, le ritrova con una modernità, ovviamente, per la difesa della poesia e soprattutto per questo anche della politia. Sono cose formidabili che non troviamo in Ezzelino, in Rolandino. Ripeto, posso sbagliare, ma no, io... se permette, sì. Guardi, c'è una frase di Rolandino che si riferisce proprio a Ezzelino, anzi al tempo in cui Padova non ancora era nelle mani di Ezzelino. e dove c'è un'espressione che è tipicissimamente dell'età comunale. Io direi dell'età comunale più che parlare di medioevo, perché si corre altrimenti il rischio. No, perché a me era stato presentato, mi perdoni, proprio dalla signorina tutto questo problema. No, medioevo o non medioevo? Ecco. Ma io l'ho. No, perché io ieri ho parlato, c'è bisogno di un antefatto. Io ieri ho detto quali sono le reazioni di un medievalista quando si trova di fronte a testi della storiografia umanistica. Che differenze avverte il medievalista? Ma poiché lei ha giustamente, invece di parlare dei termini generali, ha detto, si è parlato stamane di Rolandino, che cosa lei, professor Milanovic, che dice Rolandino si può dire appartenente alla letteratura storiografica umanistica? Professor Milanovic dice no. Ora, io le aggiungo, poiché lui ha accennato a un fatto molto importante, all'assenza del concetto di politia, le dirò che in Rolandino c'è un'espressione tipicamente comunale. Padua regebatur, non per comune, sed per partes. In questo lei ha non il concetto di politia, ma il concetto comunale, il concetto della città italiana, il comune, cioè la concordia fra le varie parti che compongono la realtà civica, diciamo così, cittadine, e invece le partes, vale a dire le varie divisioni, le varie fazioni. Ora, un'espressione di questo genere è, non diciamo tipicamente medievale, ma di un cronista comunale. Ed è qui lo strano. Che ed è qui dove poi intervengono invece i fattori nuovi di cui ci parlava a proposito di questo circolo padovano, ci parlava stamani professor Villano. Cioè, quello che a me pare strano, insomma, che in fondo anche Rolandino cita l'Aristotele latino, no? L'Aristotele latino. Per Mussato, un discorso della politica di Aristotele c'è, in pieno. Parlavo, io non sono assolutamente, per amor di Dio, specialista di queste cose, proprio un giovane che da 2 anni si occupa di... Mi parlava giorni fa e proprio diceva che studia le origini dell'aristotelismo. Dice che è incredibile come hanno pompato, insomma, in pieno. Già il termine politia, voglia o non voglia, non è del linguaggio né classico né cosa. Dopo ci sarebbe anche qui da ritornare, da discutere su altre cose. Ma è un termine vivo, insomma, di scambio anche di interpretazioni o di altro. Ripeto, io posso sbagliarmi, l'epitafio di Rolandino per me è proprio tutto medioevo, di un medioevo proprio della peggiore cosa, perché non c'è una voce minima classica. Non che io voglia ridurre tutto a questo, se viceversa leggo Pacifico, c'è medioevo, ma c'è un respiro, non dico lucreziano, ma c'è insomma tutt'altra cosa, l'epitafio di Pacifico. Allora andiamo ad un nono secolo o anche ad un undicesimo secolo che ha tutt'altro cosa, perché per esempio proprio nel campo dei padovani stamattina io non ho detto, non si finisce, scusate mai, proprio i primi notari di 100 anni prima di Lovato, 100, 120, 150 anni prima, proprio quello del Dardano, diciamo, poco dopo c'è Adam notaio che presenta le cose, le famose cedilie e le sottoscrizioni in versi, le quali sottoscrizioni in versi sono sì durissime, con un latino che io direi anche barbaro, se volete, ma un termine molto brutto che non ha senso, e le assonanze e le rime, e cioè calato nel medioevo, cioè fa la sua firma, vero, anche scripsi, carta, rogatus, dice lo studio del Panin e quello che sia, ma quello che è più importante, ci sono due cose. Le cedilie, in certuni di questi, Giona, Adam e un altro, e poi ancora più forte, e me lo insegna Paolo Sambin, cioè tutta un risorgere nel formulario loro che diventa diverso e si rifà al formulario, cioè a cose classiche, di diritto, non so io, insomma, non è il formulario comune, per cui era più logico, siamo più vicini alla Carolina, lì c'è stato un risveglio di spiriti classici prima ancora di, ed ecco in certo senso il Dardano. Per carità, io alzo le mani, ci può essere un altro Dardano, ci può essere, non ho passato i documenti, non ho passato anche le fonti scritte, io parlavo dei documenti che mi sono venuti tra mano. Ma in Rolandino direi appunto c'è, è più difficile cogliere questo, insomma. Prego. Io volevo chiedere, visto che si è parlato nei giorni scorsi di umanesimo civile, l'umanesimo civile in particolare a Firenze, della difficoltà di estendere questo concetto ad altre città e in particolare poi all'umanesimo in Germania, eccetera. Volevo sapere se, visto i forti legami con la vita con la vita civile, con la vita politica del tempo in questo ambiente padovano, se si potrebbe, se si può parlare di preumanesimo civile in questo caso. Vuol dire civile o civico? Ecco. Sì. No, per di solito la parola usata è civico, scusi. Insomma, paro da civico. No, no, è per intendersi. Dopo scusi, sta ad intenderci. Sì, no, perché risponderei allora con la frase del mio amico Cristella. Io ho l'impressione che quel discorso che fa, chiedo scusa a Schieri, ma lo dico da Schieri, per fortuna. Quel discorso che fa di Firenze e questa isola fortunata, non te. Cioè, quando Pisa o Perugia devono arrendersi, non si arrendono a Firenze, presunta democrazia, ma si arrendono alla tirannia di Gian Galeazzo Visconti. E allora mi viene da ripetere la facezia che una volta stampò il mio amico Cristella. Pier Candido de Cepri fu cancelliere di Filippo Maria Visconti e quindi fu servo dei tiranni e abbandonato a questo orribile ambiente. Però, non so se per 12 o 14 anni, fu segretario della Repubblica Ambrosiana e così almeno per 14 anni della sua vita fu anche umanista, civico. Io ho l'impressione che noi abbiamo accettato il disco del Nincul Pop fiorentino come realtà. Una realtà poi di nuovo mi fa un paura le parole medievo moderne che io rifiuto. Io preferisco dire carolino o romanico, a seconda se accetto la voce dei paleografi o degli storici d'arte, gotico, umanistico, eccetera. Perché la vita umana procede per generazioni, non per millenni. Così la parola civico mi fa assolutamente paura perché temo ci sia sotto un grosso inganno della vecchia politica fiorentina. Dal Colcio Soldati in giù. È un termine che non si può applicare indiscriminatamente. E ripeto, contraddetto dalla realtà dei fatti, Perugia non apre mica le porte a Firenze, presunta democrazia, e apre a Milano, che dovrebbe essere la tirannia. I contemporanei avevano un naso più fine di quello che abbiamo noi personaggi lontani. È molto più complicato, ecco. La tesi di Baron mi lascia assolutamente freddo, tanto più che molte volte sono contraddette dai fatti. Di nuovo la recensione di Cristella mi conforta che il testo di Baron non va d'accordo con le note che sono aggiunte sotto. Come possiamo domandare tessere di questo tipo a questa gente? Loro avevano una fedeltà al loro comune, a sistemi economici, eccetera. Queste nostre idee sono così diverse e lontane che ho paura, non riesco in nessun modo a accordarsi con le loro. Poi c'è un altro pericolo, perché questo, voglia o non voglia, questo preumanesimo padovano precipita col cadere del comune, insomma. E scompare, diciamo, è un fenomeno così come però una meteora. Questo vorrei però sottolineare una cosa. Un seminario che non abbia discussioni o anche vorrei dire contraddizioni non sa di niente. Vedi, c'è un punto però che credo fosse un po' quello che la signorina voleva dire. Mi pareva che il punto fosse questo. Emerge indubbiamente in quello che tu hai chiamato il Nincul Pop fiorentino, e che possiamo accettare, c'è una volontà di presentare la propria classe dirigente, il proprio mondo culturale, eccetera, con una certa luce di ideale, di libertà, di democrazia e via discorrendo. E in buona parte fece effetto con i contemporanei. E questo ha una sua importanza. E diciamo, il merito di Baron è di aver come dire, estrapolato questa, chiamiamola, manifestazione che è in parte manifestazione propagandistica. Però c'è anche nella coscienza fiorentina... Tutto questo viene molto più tardi, complesso. Sì, ma la domanda della signorina mi pareva fosse questa. Nel mondo di questi umanisti, di questi preumanisti padovani, che sono, come risulta dal discorso che ha tenuto tuo fratello, come in fondo anche un po' da quello che hai detto, in questo mondo del preumanesimo padovano esiste, mi pare che questa fosse la sua domanda, signorina, esiste un sentimento civico che in qualche modo, fatte le debite proporzioni di tempi, di circostanze e di realtà politiche, c'è un sentimento politico che noi possiamo chiamare analogo, ecco, non diciamo identico, prescindendo dal fatto che a Firenze c'è stata poi una specie di gran cassa politica che faceva molto comodo all'oligarchia fiorentina, no, ma del 400. Anche qui fa comodo. L'oligarchia fiorentina contro chi batte più che tutto. Prima Giancarezzo Visconti e poi Filippo Marini, Giancarezzo in modo particolare. Questi, Federico II e Can Grande della Scala. Sì, Can Grande è il maledetto, è il tiranno, maledetta Verona, porta dei tedeschi. Sono frasi delle cerimonie. Maledetta Verona. Però, e Verona è il paese della tirannia, in questa parte, sì. La via per i nemici e via. E Verona sempre. Quindi, ecco, quindi vedete... Esiste un rapporto appunto tra questo, tra certi studi, eccetera, e appunto la coscienza di poterli applicare anche nella vita politica. È molto complicato, è molto complicato. Perché dico, certi studi loro li cominciano. Scusi, pensi, io citavo stamattina Livio, Dante cita Livio 5 volte, tutte e 5 volte sbagliato, cioè praticamente Dante non ha letto Livio. Pur dicendo, come dice Livio, che non erra. Ecco. Ma già in questi bisogna leggere 3 decadi, legge in quella maniera, trascrivendosela, eccetera. Immagini che razza di digestione. Chi se viene le cara con te. Già Dante si rifà ad una espressione francese. La Roman della Rose. La Roman della Rose. Il che è molto importante. Chi se viene, cara contenza, ma dice Livio che non era, e dopo altre frasi più precise, cioè per Dante lì è una reminiscenza. Da Roma, da Roma. Cioè siamo di nuovo in chiave romanza e non in chiave classica, ecco. Il che è tanto più importante se, come credo di accettando quello di Contini, Dante è il facitore del Roman della Rosa nel fiore, capisci? Giochiamo con carte da briscola, ecco. Perché allora c'è un discorso, sempre in questo senso, che è nella preparazione di questi, ma tu Beppi nella cartula e altro hai già detto, no? Questa gente in fondo affondava nell'umanesimo nel Medioevo, chiamiamolo Medioevo. Nel Gotico, nei loro testi di studio, i primi testi di studio, è questo sì. Grammatica, vocabolari vuol dire. Ecco, grammatica, vocabolari. Summe. Questo per tutti, cioè accanto a questo fiore di una reminiscenza perfetta, a parte Virgilio o altri, abbiamo sempre, io vi leggevo, ora mi sfugge, l'autore ce l'ho di là in macchina, dunque vi leggevo quell'ultimo verso di Musato, Zambono, Dux, Autor, Lex, Semita, Cerzio, Rindex, dico, non è di Musato sta roba qua, viva Dio, con sé, con Lillo, questo ripete della X, questi cosi, è esattamente un verso preso da un medievale, da uno di quei testi che correvano, scusate, ripeto ancora, che appunto se mi sfugge, e d'altronde quest'altro medievale partiva esattissimamente da un testo comunissimo altrettanto come De Consolazione Boezi, uno dei versi, della parte in versi del De Consolazione Boezi. Quindi anche in questo senso rimangono legati ovviamente, oppure diciamo l'uguccione è entrato per loro, ma evidentemente, o il gusto dell'etimologia, evidentemente, Treviso per Lomato, que tribus avicis nomen tenet, la città, che poi, capite, tante cose volte, che Petrarca mai direbbe. Ecco. Mai direbbe. Mai. Per esempio c'è quel Carme di Benvenuto di Campesani per la Resurrezio Catulli, lui dice. La Resurrezio Catulli. è un Carme dove Momigliano dice non comprendiamo niente e tenta di trovare una situazione, dice lascio agli specialisti del tempo che conoscono come questa gente soleva spiegare i nomi e le etimologie e forse ci capiranno qualcosa. Discorso sensatissimo, fantastico. Perché Ferreto, per descrivere Benvenuto da Campesani questo nome, tra l'altro poi a volte, come nella metrica classica, c'è l'impossibilità di tradurre un nome nell'esametro, non ci sta per la metrica. E allora dice Ferreto, ed è il suo maestro Benvenuto, qui bene nomen habet cum venio, avete capito? Bene, bisogna mettere maiuscolo, venio, ecco, e quindi è così per i padovani. Campesano ha un campo che le muse hanno coltivato molto bene e che ha dato splendidi ed era sempre cioè, splendido. Dico, Guittone d'Arezzo è lo stesso in volgare. Quindi di queste cose se ne trovano a piè sospinto. Quindi chi, tempo, da classicista, cerca di interpretare il Carme di Catullo per capire quel discorso lì, se Francesco dalle Penne, che ha il nome a cui la Francia ha dato il nome, allora è stato detto Franciscus, e poi a Calamis, allora hanno detto dalle Penne, proprio loro fanno così, aggiungono pure la seconda metà del nome. Ma, insomma, bisogna, mi pare che il discorso vuole essere questo, non c'è mai un trapasso dal bianco al nero, dal verde, per così dire, dal nero al rosso, eccetera. Perciò, del resto, molto opportunamente i nostri colleghi hanno parlato di preumanesimo, cioè di un momento in cui da un tipo di civiltà si passa a un'altra. L'interessante di quello che abbiamo inteso oggi, mi pare, non so se interpreto male le vostre intenzioni, ma è stato quello di avere mostrato come questo, come si sia passato da uno spirito medievale, gotico, si passi gradatamente e attraverso uno sviluppo ed un'evoluzione ad un mondo che poi è umanistico. Questi giochi etimologici che abbiamo sentito, diciamo così, dalla mia sinistra, è vero, padovani sì, ma padovani mondiali della fine del 200, eccetera, a un bel momento, vengono, precisa il professor Giuseppe Villanovic, Petrarca, mai si sarebbe sognato di Dante, sì, Dante sì. Ancora, ma Petrarca Francesco mai. Francesco Comanna, cioè, nel canto... Sì, nei canti di San Domenico. San Domenico, Francesco, vero. Ma, e qui voi vedete, appunto, quello che c'è un po' interessante e che in un certo senso è alla base di questo nostro seminario, cioè questo momento di trapasso e di sviluppo di una civiltà. È come una persona che faceva sollevare questa obiezione in una delle epistole di Lovato, quando parla che sta male, che questo, che quello, interviene Cristo, insomma, e dice ma come, appena parlato di un mondo mitologico così, e c'è questo Cristo che ha stabilito che lui debba morire giovane, poniamo, e cioè c'è questo Cristo. Ecco, dico, questo è ovvio, insomma. Cioè... Nelle opere minori di Boccaccio è lo stesso discorso. Ecco. E la nostra bocca deve mandare giù questo... Purtroppo, questo io direi molto e molto di più. Queste cose costano fatica, molto, perché se ne parlava con la signorina, cioè studi, cioè in certo senso anche anni, e soprattutto varie discipline che possono concordare tutte a dare le prove della stessa cosa. Dico, non meravigliamoci di niente, proprio da Padova, città di Tito Livio, di Musato e di tutto il resto, avviene questo. Avviene che la famosa nota Domini Lovati, Iudicis et Poete Patavi, è una rubrica che precede lo studio di Lovato brevissimo sul scenario giambico, l'ho detto stamattina, di Seneca. Il Carducci in fretta disse, spiega tutti i metri di Seneca. Da allora, tre quarti della letteratura, se non tutte, danno questa definizione di questa nota Domini, che è brevissima didascalica ed è proprio lo strucco ad unguen dell'insegnamento di Lovato su un codice di Seneca, di quello che lui ha tratto per il scenario. Ebbene, da Padova quella rubrica nota Domini Novati, giudici, sottopoete, Patavi, chi un giorno ha dovuto parlare di questo ha aggiunto dopo Patavi, tra parentesi, mi, Patavini. E un filologo classico scrisse Patavus, in un'altra occasione, non conosco un aggettivo del genere. Che se c'è nobiltà di discorso è proprio questo Patavus rispetto al prolisso Patavinus. Come per i padovani, quando volevano parlare, diciamo, sottovoce comune, sottovoce dialetto, dicevano Padua. Va bene, ma lo scrivono anche nei versi Padua. Se volevano mettersi le ali, la pomposità di Livio, cosa, Patavinus, ma più Patavus. Patavus è proprio il linguaggio poetico per allora. Ripeto, due studiosi, anche uno meno insigne, ma uno insigne proprio, completa Patavini. Quindi siamo, così c'è bisogno di studio, insomma. E vorrei forse aggiungere qualcosa, se il Manselli permette. Prego. Ed è che non mi farei un punto fisso di certe idee che troppe volte corre, anzi detti il contrario. Cioè l'idea che chi può essere classificato come umanista sia una persona molto capente. E che chi è classificato come gotico sia una persona per ma, ecco, può sopravvivere in certa materia, i giuristi per esempio, un gotico nobilissimo, anche dopo, poi di nuovo le date, il domandare di essere umanista a Rolandino da Padova, è passato poco assurdo. È una bestemmia. Siamo all'età di Federico II, ancora direi... una cosa, cioè guardate che già parlando di umanista o preumanista, perché poi in fondo sono frasi che inventiamo noi, ecco, o protoumanista o freumanismus, eccetera, frasi convenzionali, etichette professorali, eccetera, ma guardate che siamo andati molto indietro. In genere io a scuola dico ogni anno, una delle più grandi conquiste della nostra generazione è stata quella mirabile di quel giovane architetto inglese, giovane e ovvio, morto poi così tragicamente, la decifrazione dell'ideale. B. Noi abbiamo conquistato secoli di lingua greca, sia pure attraverso frasi deboli alle spalle di me. Io mi ricordo, sbarcai all'aeroporto di Londra proprio in quei giorni. Andai a cena con Arnaldo Momigliano, che di nuovo fa honoris causa nobile, e mi disse: è scoppiata la bomba atomica. E mi dite una spiegazione di questo tipo. Finora noi avevamo detto, leggendo Omero, che Dioniso in Omero è nominato una sola volta. Ergo è un dio di invenzione recente. Adesso dice, troviamo continuamente nominato Dioniso 6 o 5 secoli prima di Omero. Cosa dobbiamo confessare? Che Omero era una persona molto per bene, che non nominava tanto Dioniso o Cerbero, gli dei della pace, in sostanza. Pane e vino. Ma nominava piuttosto Pallade, o Mercurio, gli dei della testa. Bene, la nostra generazione ha avuto qualcosa che, se non è proprio così catastrofico, così clamoroso, si avvicina. L'umanesimo è arretrato per l'Italia, naturalmente non per altri paesi, di un secolo e mezzo. Una delle fanciulle che lavora con me un certo giorno è arrivata con la novità grossa e l'ha stampata. Uno dei grandi centri della vecchia civiltà carolina in Italia per gli studi per codici è stato qua. Mai se ne parlava fino a me. Brescia. È arrivata con 3 grossi codici, secolo IX, uno è Seneca, l'altro è Cicerone Cittadei, copiati nella cattedrale di Brescia. Ma lei è arrivata al punto molto bello. Albertano da Brescia, cosa vuol dire da Brescia? Vuol dire 220-230, di nuovo Federico II, postilla con disegni, e con note e addirittura con disegni, questi codici. Cioè c'era già uno che quando Dante era ancora nella mente di Dio, frequentava le biblioteche capitolari o la biblioteca della sua città e postillava queste cose, cose che Dante non ha mai fatto in sua vita. Dante resta molto più gotico da questa parte. Adesso a me tocca di vedere e non ne so niente, sento la rabbia e il pianto. Un medico, Simone da Genova, perché come dobbiamo studiare i giuristi, cosa dobbiamo studiare i medici, che frequenta biblioteca del, del monastero di Sant'Ambrogio, altezza di nuovo di questo tipo, no, un po' più giù, lui è medico alla fine del 2, primissimo 3, fino a quando faccio ottavo medico papale, e da grosso trattato di medicina del monastero di Sant'Ambrogio, il caso fa, cioè dovremmo andare indietro, indietro. Quello che noi non conosciamo sufficientemente è il 200 e il 300, perché i nostri padri stentavano un po' a mettere l'umanesimo che disturbava loro. Quando il popolo si desta, Dio si mette alla sua testa, la sua folgorità, quello che loro pensava era il volgare. E si capisce che suonavano una campana doppia, ghibellino e volgare. Ma meno che mai loro andavano in giro, indietro, a queste tappe non mitologiche. Ripeto, l'interessante è che per voi storici, perché si può conoscere tutto. Questo non è, io non so che cosa si saprà mai della, dei sette re di Roma. Quando io voglio ridurre i miei giudizi sui colleghi di storia classica, leggo le loro dispute, le loro polemiche sui sette re di Roma. Ma io sono ben convinto invece che si può fare la storia delle diocesi italiane tra il V e il VI secolo. E resto allibito pensando che quell'età è considerata troppo bassa per gli storici classici che oggi discutono la Santità sulla Repubblica, invece, e troppo alta per i medievalisti, e quella parte resta ancora troppo scoperta. Ora, per noi, in quest'età invece tanto più bassa e tanto più facile conquistare, tra il 2 e il 3 c'è da fare finché si può. Perciò lascerei un po' concetti un po' da sesso degli anni, ecco, è umanista, non è umanista, eccetera. Oppure ci sono detto un'altra strada, fai realion, come dicono i tedeschi. Ah, è bello perché questa parola c'è in tedesco, c'è in francese, c'è in inglese, realitis, ma c'è in italiano. Per me è sempre stato un segno che la nostra cultura ha dei punti deboli. Qui c'è da fare quanto si vuole. Ah, non ho un discorso costante. Ecco, direi, quando ci si avvicina, lasciando stare i discorsi medievale e moderno, ma accettando gotico umanistico, ci si accorge subito. C'è l'arco gotico o c'è l'arco turco? O c'è addirittura la cupola? Leo Battista Alberti. Così qua si sente subito, come lui diceva, l'odore di umanistico. Queste riprese precise, concrete dai poeti classici, ci stanno al nono. Certo, perché umanesimo vuol dire ritorno all'età carolina. Vi esorto alla paleografia. La paleografia, anche per chi non lo usa più poi in vita, ma l'ha fatta solo l'università, abitua a questo come stagione. A questa chiara idea degli stili. Carolino un conto, umanistica un altro, gotico un altro. Ogni tanto si alza questi disastri. Viene il ragazzo e mi parla di questo lungo commento del Petrarca che lui vuole pubblicare. Ma scusi, quel che mi sono trovato io, sa. E so benissimo che questo commento è... No, cercolo qua. Ma scusi, è scritto in Carolina. Il Petrarca non poteva mica scrivere in Carolina. Vuol dire che è di 200 anni, 300, 400 anni della Petrarca. E questo resta adibito perché non va nemmeno il concetto di che cosa sia la scrittura Carolina. Sono queste le cose che mi fanno stringere il cuore. Nelle cronache poi è chiaro l'ultimo pezzo in cui arrivano a essere umanisti. Per forza, nonostante l'influenza di Livio, di Sallusti, no, facile. O nella lettera ci arriva più presto. Oh, poi il raccordo direi volgare e latino, quei discorsi che lui faceva sui nomi, Vittorio. La lettera l'ha compiuto Donzella, o Donzella che bene compiesti, dunque sei bene compiuto, che poi è tanto, appunto canto di San Domenico. Ma poi è ovvio che la gente, cioè il filologo o classico o anche un certo tipo di filologo, non accetti questa filologia, diciamo, questa esagerazione di questo preumanesimo, che sia già umanesimo, in poche parole, non solo nelle idee, ma io dico, ho dato delle prove, insomma, per esempio il termine creonciades, onomastico alla mano, c'è poniamo tre volte in tutta la latinità, è sempre attribuito a un certo Emone, figlio di Creonte, così. Per lui Lovato è invece attribuito, cioè come accezione, è sua, assolutamente sua, un unicum. Lui è partito dalla fonte classica, ma l'ha fatto suo per dire figlio di un altro, e lo chiamava Creonciades, esattamente, ma non lo trovi nel vocabolario. Mentre è più facile spiegare un dentipotens di Zambono che non esiste in nessun vocabolario, ma che è una... il lupo ha lovato forte di denti, insomma. Oh, guardate che i vocabolari sono ancora relativi. Ricordo l'esperienza più grossa che mi è toccata, non si può ancora parlare perché non ci è arrivato, col Tesaurus, ma col Forcellini. Rocidus. Forcellini da Rocidus e poi dalla variante Rocidus, usata solo da Catullo. Io ho dovuto spiegare, ma scusate, Catullo, l'archetipo di Catullo è stato sempre conservato a Verona. Le prime copie, morto l'archetipo, per dire che sono veronesi. Ora una maestra a Verona, come a Trento, deve dire ai ragazzi, sciare, pesce, pesce. Se no il ragazzo scrive siare e pesce, però comunque bravo, due esse. Ecco, sono i nostri vizi di chi ha bevuto l'acqua dell'Adige o l'acqua del Po, congeniti vizi come era doppiamento. Perciò anche i vocabolari, voi italiani, che latini, insomma, a me è toccato una cosa, per esempio, un giorno poi mi la domanda. Prima di umanista, come si dice? I nostri bravi amici Campana e Christeller, indipendentemente durante la guerra, sono usciti con la lucida spiegazione. Umanista cos'è? Umanista è una parola nata nello slang, nel linguaggio universitario, non sappiamo in quale università italiana, prima, del 400, per dire l'insegnante o l'allievo di grammatica e retorica. Giurista, civilista o canonista? Vabbè, io scottista, tomista, è arrivato umanista. E prima, come si dice? Ai tempi d'arte. E mi è toccato di trovare la parola che non c'era nel vocabolario. E pur questo non c'era, perché noi siamo figli degli umanisti e abbiamo dimenticato cos'era il gotico. Ai tempi di Dante e anche di Petrarca, ma non da Petrarca, dalle persone più basse, Pucci, Franco Sacchetti, si diceva autorista. E ho dovuto scrivere da autorista a umanista. Cioè per dire dal gotico all'umanesimo. Adesso però io vado pensando che finora abbiamo fatto noi una rivoluzione. Cioè, i nonni avevano detto, c'è la filologia romanza e c'è questa grande strada. E così si spiega tutto. La mia generazione si è accorta. No! Il più grosso di parola latino lo scrive in latino. Proprio in sti mesi io vado facendo una terza riflessione, non sono tre le strade come i tre anelli della novella di me. Chi se ne è? E qual è la terza strada? La terza strada è il gotico. Nelle città italiane, nei comuni, è nata la rivoluzione. Sono arrivate le nuove chiese domenicane e francescane. Basta leggere la Divina Commedia per capire cosa è stato per quelle generazioni comunali. Quelli sono arrivati non solo con le chiese, ma sono arrivati con i libri. Non c'è stato un complesso, ma di persone di seconda qualità che ha pompato da quella roba lì. Adesso con gli amici ti scrivete una cosa che ci costa sangue, ma ci diverte. Vincenzo di Beauvais, spero sia chiaro, lo speculum, anzi il quadruplice speculum, una roba così. Ecco. Mi ricordo la volta in cui con gli amici, dotti americani e dotti domenicani, cercavamo di fare un'edizione impossibile. Dicevo che misurato col metro, cosa che fa paura. Per questo nessuno. Il giornale storico della letteratura italiana, gli studi danteschi, negli indici non danno quasi voce per questo. Ma lo hanno usato. Sapete cosa si è toccato? Si è toccato che qualche autore della letteratura italiana, per tre quarti, dico per tre quarti, è copiato da Vincenzo. Stiamo dando adesso la dimostrazione con nostra sorpresa, che non è con sorpresa. Tutti. Di quell'autore hanno fatto tutte le edizioni, in parecchi volumi, in volgare, e non si sono accorti che per tre quarti è una pura copia di Vincenzo. Vabbè, che ti mostra di nuovo che il gotico sopravvive. Anche in zone di punta del 300 c'è l'uomo di natura diversa, spesso di cultura più bassa, lo ammetto, che fa il gotico anche dopo che Petrarca passa. Poi il caso interessante per la Germania. Quali sono i libri di Petrarca più letti? Sono quelli gotici, non quelli umanistici. Il De Remedis Utrusca Fortuna è quello letto. Quindi non direi medievale, se non con prudenza, direi piuttosto gotico. E direi non che gotico sia subito una condanna, ma no! e Giotto è un cattivo pittore, pure gotico, gotico, ma per Simone Martini il discorso diventa più complicato e non lo faccio. È un nuovo tipo di stile che nasce in certi paesi. Guarda, poi questi certi paesi sono pochi, quando si fa riflettere il ragazzo, Torino e Trieste non c'entrano niente, caro, lasciali un po' via, perché tanto se vai a vedere il Duomo di Torino ti accorgi. È un Duomo fatto tardi, 400, e andrebbe bene per un villaggione veneto o toscano. È proprio il senso che Torino, Torino è arrivato ultimo. Qual era Torino poi? Appunto, è arrivato ultimo, no? Novara o Vercelli sono discorsi tutti diversi, tanto più perché Novara è Lombardia o era Lombardia, e era il dominio viscontino. Ma quando noi stiamo parlando qua di preumanesimo, guarda che parliamo solo di Italia nord-est, è Padova, Verona in senso minore, per Venezia il discorso diventa molto più complicato, ancora oscuro, Vicenza e in certa parte connessioni con Milano. Però già non stai Bologna, le università sono due, Padova e Bologna, basta, perché Pavia è, cos'è, 1360 la fondazione di Pavia, però Perugia, che poi sarà importantissima nel 4, e viceversa non abbiamo ancora studi sufficienti per Perugia, non ha forza sufficiente adesso. Roma non esiste perché il papato è fuori, Firenze è quella stella luccicante, c'è, non c'è, e basta pensare alla biografia di Boccaccio per capire l'ambasceria Petrarca, la chiamata di Nunzio Pilato, non è fatto da Firenze del tempo di Lorenzo. E Pisa naturalmente è debole politicamente e debole culturalmente, perciò è un'Italia molto relativa. Il discorso di stamattina, cos'è l'Italia? Una volta io ho detto le Fiandre, era presente il vecchio amico fiammingo che l'ha detto, no, non si può dire, ma tutti dicono le Fiandre, è un errore storico, bisogna dire la Fiandre. Da allora io non so se esista la Fiandra o la Fiandre. Ho imparato che non esiste la Italia, esistono le Italie, come mi stavano là. Il vecchio Bernson ti diceva, hai davanti una pittura, se c'è una facciata di marmo, è Toscana, se c'è una facciata di mattoni, invece è Italia del Nord. Così per noi, di nuovo, medievale, moderno, sono discorsi che mi fanno paura. La parola Rinascimento non la uso mai, con i ragazzi, e la odio. Perché sono le parole inventate da noi professori. Mentre il gotico, carolino, questi mi va bene. Vi siete mai domandati perché per quel periodo ci sono due parole, carolino o romantico? E invece per il periodo seguente gotico c'è una parola sola. Ogni volta lo faccio in seminario con i ragazzi, questo esercizio si risponde. Perché carolino e romantico li abbiamo inventati noi professori. E invece gotico, chi l'ha inventato? I vecchi umanisti, i due dioscuri, uno per la storia dell'arte e quell'altro per la retorica. Eleganzie, terzo libro, contro i giuristi, a bassi giuristi, però Leocche e Nomicini, parla quella lingua maledetta che loro giuristi l'hanno fatto scappare da Pavia, e Leon Battista Alberti negli altri due. Gotico è la loro vecchia parola, guarda che mi fa paura, l'ultima grande sacro francese, la consacrazione di Luigi XVI e di Maria Antonietta, quei due ragazzi, si è svolta nella cattedrale di Reims, come era sacro i tempi di Giovanni d'Arco, ma hanno dovuto con gli arazzi ricoprire la basilica perché il gotico era ripugnante alla fine del 7. Nessuno poteva tollerare il gotico, tanto era stimato uno stile esacrando. Credo che la famiglia Manselli sarebbe ben contenta di portarsi a casa un fondo d'oro gotico di rispettabile maestro, invece, ecco, o una statuetta, voi di Giovanni Pisano o di Nicola Pisano, senza discutere se sia preumanistico Nicola Pisano, ecco. Ma poi c'è, scusa, dopo basta, almeno per me, c'è un altro discorso, anche questo che dicevamo delle etimologie, può essere nobilitato, cioè non il campo convenio e si crea benvenuto Campesani, ecco, può essere nobilitato a tal punto come Ferretto Ferretti, che per firmarsi nel carne muore benvenuto dei Campesani, invita Mussato a celebrarlo, perché dice è morto questo grande e tu solo lo puoi celebrare. Finisce e dice, sic, non li ricordo alla perfezione, sic ferreus orat uncus, mentre la festa poppare porta verso il lido. Cioè, la mia barca ormai stanca va verso il lido, però, e ti prego, ferreus uncus, lui, ferretto, nessuno. Cioè, ha detto, lui si dice così. Ma perché si dice così? Vocabolario. Fiuto, vediamo. Ferreus uncus, per lo stile, a fine riga con la ripresa uncus dopo, Orazio. Ma, ma il termine esatto attribuito alla nave, ricordi nostri di Ginnasio, è livio. Va bene? Le navi puniche, quando buttavano il gancio avanti, punto Duilio, scusate, Gaio Duilio. Ecco, per l'immagine della nave è solo Tito Livio, e non è da ridere, è la verità precisa. Dice, asseres in quel tempo e ferro i unici venivano buttati, dice Livio. Ora, naturalmente che lui ci ha pensato prima di mettersi questo paludamento e la sua firma, ma sta a noi a un certo punto capire. Quindi anche se Lovato dice Treviso tribus avicis, però un altro punto per dire Zambonino, ci è arrivato Sabadini, poveretto non Foligno, dice se questo nome aggiungi Iambo, verrà fuori Minus Erit, sarà Nino, non quello della Siria regnato in aula, ma, va bene, viene fuori il medico che io conosco, mio amico. Iambonius. Giambonino, Zambonino. Ma non è mica finita, è per dire da cittadella ti dà tre versi di una descrizione bellissima di questa cittadina murata, obex ostibus alpinis, di, diciamo 30 anni prima, 1220, deve essere la cerchia murata di cittadella, ma stupenda descrizione che potrebbe essere messa via cittadella subito. Quindi qui non c'è più solo l'etimologia, siamo già in qualche cosa. L'etimologia era gotica e dopo tutto il resto. C'è ancora qualcuno che voglia porre... Bene, come io... che io non credo alla dissacrazione, come si dice, ho già citato Garen, ma insomma una dissacrazione vera e propria non c'è. Per loro è il gusto della cosa classica. Oppure Ovidio, un'espressione terribile di Ovidio per l'amante nell'ars amatoria, loro la portano sulla tomba lì tranquillamente come fosse Bibbia. E non è dissacrazione. È proprio questo bisogno di parlare come loro sapevano fare, insomma. Allora, prego. Sì, sì, sì, sì. Come? No, no, dica, dica. Insomma, è questo discorso dove si può un po' ausdrücken. Ich kenne auch Deutsch sprechen. Per lui è americano, quindi per lui può a un certo momento parlare tedesco. O sarebbe a parlare inglese come preferisci, insomma. No, no, poi... If you like, speak English, no, pure sei in inglese. Va bene. Mi dà il coraggio di mettere una questione di ordine talmente grossolano che non avrà forse più valore, però siccome lei ha parlato di questi luoghi comuni che dobbiamo intuire, dobbiamo sì. Mi fa il coraggio di mettere una questione che abbiamo parlato discorso di cui c'era il discorso del giorno a pranzo. Dicevo un collega che l'umanesimo era una cosa dunque che non ho preso mai in piedi nelle università, che è stato un aspetto della cultura del 300, 400, 500, poi via via in Inghilterra, alla corte e così via. Ma che tra tante le cose umanistiche si deve ricordarsi sempre che era un pezzettino della cultura del 300, 400, ma che era un fenomeno che non ha fatto mai in piedi. Ho capito. Dell'università. E siccome sì. Loro sapranno più dell'università, specialmente no. A dove sono stati talmente umanisti. Sì, o Ferrara o Bologna. Per dire un sacco di tedeschi, forse potrete accorgervi di quel discorso. Qua dire, posso dar subito una risposta negativa e una positiva. Una negativa, cioè è verissimo che il gotico continua nell'università per lungo periodo. C'è un fatto visivo, vada sempre. Quando arriva la stampa, c'è la battaglia. Con la stampa chi vincerà? Il gotico o il carattere che voi chiamate italics, che i francesi chiamano italic, o l'altro che voi chiamate Roman Fountain di carattere romano? Insomma, vincerà la libraria e la corsiva umanistica o vincerà la gotica? È un lungo duello. Tanto lungo che in Germania, data la riforma, resta il gotico. E Bismarck addirittura aveva l'idea folle di aver letto in vita sua soltanto libri in caratteri gotici, perché stranissimamente immaginava che il gotico fosse l'espressione della germanicità, il che casomai andrebbe applicato al carolino, ma non al gotico. Ecco, da ogni modo, se il gotico ancora così sopravvive nella stampa, è segno che il gotico è rimasto ed è rimasto profondamente anche nell'università, specialmente in certe materie, no? Il libro, se era un libro di classico o di grammatica, si strampava in caratteri umanistici. Se era un libro di diritto civile o canonico, di medicina, si strampava in gotico. Capisce perciò quanto la sua domanda sia fondata sulla realtà. Guardi, io mi ricordo un giorno al British Museum avevo bisogno di fare una consultazione della Summa Confessorum di Sant'Antonino. Ho domandato, mi sono arrivati due volumi così gotici, tutti così, e pensare che all'età presso poco di Lorenzo il Magnifico, tra Cosimo e Lorenzo, perdurasse in quell'ambiente di San Marco, quel gotico mi faceva capire che sarebbe arrivato a Savonarola. Cioè il gotico dura per molta parte, non il discorso di prima, non muore. Ci sono paesi dell'Austria dove, dicevo prima, si è passati dal gotico al barocco senza avere l'intermezzo dello stile rinascimentale. Però, proprio per onestà, vi faccio qualche calcolo. Un giorno a Bristol c'è un giovane inglese che sente dire: a Ferrara c'è un grande maestro, e piglia e fa la strada da Bristol a Ferrara, a Colombo, per andare a sentire Guarino. Noi purtroppo non abbiamo l'elenco degli scolari di Guarino, purtroppo, ma la scuola di Guarino fu piena così europea. Di polacchi, boemi, ungheresi molto, tedeschi in modo particolare, francesi praticamente di certe zone, devo spiegare perché, fiamminghi, inglesi. Io non so, e guarda che parlo molto, non abbiamo statistiche, ma io credo che forse metà o presso poco, lo dico molto incerto, degli scolari di Guarino, perché nomino Guarino, perché è più grande maestro del primo medesimo, 420, 30, 40, ecco. E scolari di Guarino possono stare niente. Le università italiane sono le prime università del mondo nel 4. Guarda, se avessimo studiato una persona di buona cultura, alla fine del 5, e gli avessimo detto: qual è la disciplina che in questo secolo ha fatto più progressi? Secondo me, questa persona avrebbe risposto la cartografia, la descrizione degli Atlanti, la scoperta dell'America, Colombo, Amerigo Vespucci, Magellano, la circonnavigazione dell'Africa, la rivoluzione del mondo, no? Se invece avessimo domandato alla fine del 4, al momento sceso di Carlo VIII, morti di Lorenzo de' Medici, cose simili, qual è la disciplina che ha fatto più progressi da sé? Avrebbero detto, secondo me, il greco, l'arrivo del greco. Pensi che cos'è Niccolò V, perché non è mica solo la letteratura. Valla traduce Erodoto e Tucidide, la storia. Scusi, la scuola del greco, la prima grande, ne lascio stare un'altra, scuola a Firenze, è quella di Crisologo. 397-400, cosa traduce? Traduce mica a roba letteraria o ipica, traduce Tolomeo. Poi, subito dopo, Guarino, scolare Crisolora, traduce Strabone su due testi geografici. La scoperta della mia, una volta ero in Italia, è venuta la radio, attraverso un interprete mi ha imposto alcune domande e alla fine mi è arrivato il colpo di iuto che io già mi aspettavo. L'amico lì dell'est europeo mi ha detto: ma lei è proprio convinto che questa sua materia sia importante? lui immaginava che dicessi no, sono la fisica atomica o la penicillina sono importanti. Io invece ho risposto, scusi, sa, io sono convinto che se Petrarca non avesse scoperto i geografi latini minori e questi qua non avessero tradotto i geografi greci, l'America sarebbe stata scoperta 2 o 3 secoli dopo. Lei adesso vado a domandare al presidente Ford, allora era Nixon naturalmente, se, e vado a domandare a Bernard dall'altra parte, se la scoperta dell'America 2 secoli prima o 2 secoli dopo ha o no importanza. No? Scusi, c'è un lavoro grosso da fare, immagino che Sottili forse ne avrà parlato ieri, non so di cosa abbia parlato, ma è il suo gioco, direi, non suo hobby. Ed è quello di vedere quanti sono gli studenti tedeschi che sono venuti in università italiane e di vedere quello che Bertalò ha così degnamente cominciato, di Zibaldone, i libri copiati da loro che questi scolari si sono portati di, al di là, o le grosse biblioteche inglesi, il duca Goffredo di Gloucester, i grandi cugini del re, Grey o gli altri però, che si sono fatti fare da Vespasiano da Vestici il più grande libraio del mondo allora, biblioteche intere e se ne sono portate al di là. Qual è la gran città che produce libri nell'Ottocento? E chi sei, nome di Dio? La Gran Germania di Bismarck. Qual è la città che produce libri nel 4? Firenze. Vado adesso a Firenze, sento che è solo città turistica, le industrie sono Galileo Piglione, roba che per me è semi milanese farina, ecco, altro che Sesto San Giovanni. Invece la Firenze di allora è la città più commerciale, più industriale, ma anche la città che esporta libri e cultura. Perciò io non so che cosa si deve pensare dell'umanesimo, se bene o male, qui non me ne importa per voi, ma so che è stata la materia di grande scambio. Del resto, quando le parole si impongono, vuol dire che ci sono le cose. La parola umanesimo l'abbiamo inventata noi professori presso poco un secolo fa, un po' prima, un secolo e mezzo fa. Bisogna spiegare che perfino al principio del Novecento, il dotto italiano diceva umanesimo, virgola, se così vogliamo dire, virgola. Io adesso ho ripreso a dire il movimento che noi posti lontani usiamo chiamare umanesimo, ma la parola umanista, no, ripeto, quella l'hanno inventata nelle università italiane, perché vuol dire che c'è una cosa, quando si inventa la parola c'è una cosa, di una data che non sappiamo ancora, 430, 40, cose simili, dove Ferrara, Bologna, Padova, Pisa, Pavia, non sappiamo ancora rispondere. Tra 10 anni risponderemo di sicuro. Cioè le università sono state profondissimamente investite dal moto umanistico, naturalmente con reazioni contrarie, il caso di prima. Il giovane Valla deve scappare di notte da Pavia, perché gli stanno facendo la pelle. Abbiamo una lettera di un povero, mediocrissimo umanista Fidernò da Bertalò di Pavia, che descrive in che razza di maniera questo è scappato da Pavia, perché i giuristi gli facevano per le nostre contestazioni, stata voce di fronte alle contestazioni, più che tutto le battaglie delle arti, cioè giuristi contro umanisti, umanisti contro teologi o contro medici, per interessi ben precisi. Quindi il gotico dura ancora anche nel 460, anche nel 470, invece se io posso chiamare Sant'Antonino un umanista. No, no, e dura praticamente nell'ordine religioso, domenicani e francescani. Così, c'è una biblioteca che conosciamo adesso benissimo, grazie agli americani, Holman, o Ullman, come diciamo noi, la biblioteca di San Marco a Firenze. È tutto umanistico quasi, greco, latino. Ah, ma l'ha fabbricata Cosimo, regalando i libri ai frati, ed erano più che tutto i libri di Niccolò Niccoli. Le biblioteche invece normali dei francescani, per esempio quella adesso conosciuta perché un nostro amico ha fatto un buon libro, Sant'Agostino di Padova, è una biblioteca per me brillante, rebarbativa, tutta gotica, il mio povero stomaco di professore di lettere, no, ma di professore di lettere di questa generazione non ci capisce niente, vero? O non gli interessa niente. Per questo dicevo prima, 3 strade, i classici, prima la filologia romanza, vero? Le chanson del gesto, quel che volete, vero? Si arriva, pare che per gli italiani si arriva a Boiardo, Ariosto e Tasso, vi dico poco, vero? Cioè alla letteratura italiana che è classica, la letteratura classica e umanistica, ma adesso non si è male. Negli ordini religiosi, tra i medici, tra i giuristi, perciò dura tanto ancora. Però la forza dell'umanesimo è tale che lo Stato italiano diventa il primo del mondo, più che tutto grande umanista. Ma pensi solo a questo, il greco Erasmo, che ha parlato tanto male degli italiani, ma in casa di Alto impara un sacco di cose, e si ha. Poi naturalmente si capisce che alla fine del 4 primo 5 noi italiani abbiamo perso il gioco. Poi verrà l'università di Leida, la grande nuova università protestante, protestante naturalmente. Mi ricordo il giorno che sono sbarcato a Leida, vedere nel Rathaus, l'hotel de Ville, il municipio, murato una lapide non più grande di così, che dice: nell'anno tale dei nostri morirono tanti e tanti, poi Dio aveva misericordia di noi e ci salvò. La sedia arrivò Guglielmo d'Orange, tagliò le dighe, inondò, avanzò con galeoni e spazzò via gli spagnoli. Prima è Ferrara, dopo è lei. Quando i terreni sono stati battuti sul campo di battaglia, c'è più niente da fare, dopo la venta, via. Abbiamo ancora una grande eredità che aspettiamo, fino a Metastasio Goldoni. Metastasio muore a Vienna, Goldoni muore a Parigi, accidenti, altro di più. De Santi ci ha raccontato in una maniera di pensare molto diversa, lui non aveva idea che fosse finita in foto così bene. Per lui secco era tutto da condannare, immaginarsi. Ma dopo il primo del 5 l'Italia non ha più quella forza enorme che aveva prima. Era una forza politica e economica. Però nel 4 sì, ma nel 4 l'umanesimo è una cosa grande, italiana. Ma ho fatto sempre impressione una lettera di Erasmo ai veneziani, dicendo qui a Basilea, naturalmente, stiamo preparando l'edizione di Livio. Se avete un vecchio codice, mandatelo. E devono rispondere, non ne abbiamo più nessuno. Devono tutti organizzarli. Perché l'Italia era stata tutta, sono come pozzi di petrolio che vedono qui, a un certo momento avrà anche quello per gli arabi. Gli italiani avevano tanto presto usato le vecchie biblioteche caroline, torno a ripetere, che non hanno più ricchezze nuove. I tedeschi invece cominciano allora a sfruttare la grande zona del re, le cattedrali del re, Speyer, Hofburg, ecco. E quindi possono continuare nel 500 e i grandi stampatori di Basilea si riforniscono non nella zona italiana sfruttata, finita, ma viceversa nella zona del Reno vergine. Perciò è un grande avvenimento, ma non è tutto il gotico duro, no. Dunque si è unito che sono stati gli italiani a sfruttare da prima dopo il consiglio di Basilea? No, quello è vero, ma scusi, il consiglio di Basilea andiamo ben più indietro, mica l'età di Erasmo. Io parlavo dell'età di Erasmo. No, vi sono gli italiani, scusi, sì, che visitano la Colonia, va a Orispa, per esempio, no, Poggio non riesce a vedere la rivalità di Orispa, va a Giovanni Orispa, però. A Colonia va a Poggio e non riesce a vedere la biblioteca Secrezio, Pietro Donato scopre, il vescovo di Padova, Donato vuol dire grosso nome veneziano, Villanovic erano i brutti plebei schiavoni, ecco, invece Donato voleva dire una persona molto molto per bene, ecco, quello scopre la notizia di Unitatum, quel magnifico codice che c'è a Berlino, eccetera, insomma, sono italiani i primi, ma ripeto, Costanza e Basilea vuol dire la prima metà del 300, del 400, non la fine del 4 o peggio il 5, però, anche perché, scusi, sa, chi è che tiene forte le file a Costanzo Basilea? Sono proprio gli italiani, il duca di Milano che è tanto potente. Il momento in cui Branda Castiglioni, il cardinale, si opera l'unione inglesi, italiani e impero, i francesi sono giocati e il Papa francese deve andarsene, è finita. E la vittoria delle promesse italiane, infatti si serve della guerra dei 100 anni. La nostra fortuna è stata la guerra dei 100 anni, il nostro la vita a me. Se scoppia la rivoluzione in Portogallo e in Grecia, il turismo italiano va benone. E così è stato allora. La guerra dei 100 anni è quella che ci ha salvato. Quando la Francia è tornata a posto, Carlo VIII o Luigi XII sono venuti e ci hanno spartato qui. Direi che la discussione è stata non... diciamo così, conclusa, la devo concludere anche perché abbiamo ancora del lavoro da percorrere. Se sei d'accordo, interromperemmo 10 minuti, diciamo che alle 4:30 riprendiamo il nostro lavoro. Comunque vorrei solo ringraziare i due colleghi di avere...